edizione 11 di Faded, certo, intitolata con I Cut Domain Expansion and Cataton Macron, perché ovviamente Nivel ha usato la sua memoria. Allora, 24 ottobre 1622, arriviamo in città e cerchiamo di capire chi è la figura della principessa, insomma le facciamo le domande di tutto il genere. Vediamo poi nel mentre se il cadone che sorvola le nostre teste e andare al palazzo per l'hotel per benestanti, mettiamo così. Ipoteticamente, forse, alla ricerca di una certa Potelos. Andiamo verso la chiesa e sulla terrazza incontriamo Demos e Marica e cerchiamo di farli, insomma, desistere nei loro obiettivi e soprattutto di mandarli via e di mandarli in salvo, perché qua mi sa che scoppierà una guerra. Scopre che la principessa è il firmatario di Xadak. E nel mentre arriva Devin, che con un tubo enorme si collega da... Porca troia, che sessione. Si collega da un palazzo alla chiesa, cercando di fare un trattato di cessare il fuoco e vuole allearsi con il party. Però succedono queste cose in successione. Xadak ruba la pistola di Devin, Mif riesce a spaventarlo, Nivel è lieto, giampano Mif, arriva Aidos e il piano del palazzo esplode. Intrappoliamo Xadak, Fake Adone prende la Buchelos, sigilliamo Xadak e ci alleiamo con Aidos, Nivel e Devin tirano giù Adone e si usa la memoria. Mif e lieto Aidos affronteranno Yona. E bene, abbiamo finito. Ciao Stella. A differenza delle altre volte, quest'oggi inizio io e poi vi do la parola. Non credo di dover dare dei soggetti, capirete. Ricordi chiaramente l'infanzia di tua figlia, anche se con gli anni, con l'odio e il desiderio di vendetta, l'immagine del suo volto è lentamente sbiadita. Ricordi nitidamente il giorno della sua nascita, i suoi primi passi, le sue prime parole. E ricordi altrettanto nitidamente il suo primo colpo di tosse, il terrore, l'impotenza, la rabbia. Ricordi anche che un giorno Lea ti parlò di un suo sogno, in cui vedeva una ragazza poco più grande di lei. Però, cioè, io non posso andare avanti, se ho saltato, c'è, ci siamo, ci siamo. No, ci sono, ci sono, c'ho le cuffie, Ok, stavo chiudendo la porta, vai, vai, vai. ok. Di aiutarla, di portare la sua No, fiaccola. ho bisogno che andate in pausa, ragazzi, scusate. C'ho una ragazza che è arrivo subito. Vai, vai, non ti preoccupare. Ciao Tranquillo, Bianic, Stella, come tra stai? poco riprendiamo. Ho le palle che sono di tutti i colori dell'arcobaleno. Sì, Fa piacere che tu abbia scritto delle cose, ma noi non in te. No, a me interessa tantissimo, scherzi. Io interrompo Buonasera. mio fratello a cena Ciao Stella. dicendo: guarda Giacomo, tu mi devi andare a giocare. Fatto bene. C'è tuo fratello a casa? No, era in chiamata, però sai, dopo 40 minuti di call, a un certo punto ero tipo... La tua Io vita non è credo. così interessante. Devo giocare a Fated! Ho parlato di Fated oggi e di Scuttle. Ci sono. Ok. Perfetto. Scusatemi. Ah. E mi sa che faccio una roba poco carina, cioè chiudere il botto e rifarlo ripartire. Riparto da prima. Ricordi anche che un giorno Lea ti parlò di un suo sogno, in cui vedeva una ragazza poco più grande di lei, smunta e pallida, che le chiedeva di aiutarla, di portare la sua fiaccola. Eppure non c'era nessuna fiaccola, nessun modo di aiutarla, solo il terriccio fertile. E sprofondava Lea nel terriccio. Il suo terrore diventava rapidamente accettazione e tranquillità, come se dalla terra non ricevesse che un dolce abbraccio, colmo di amore e protezione. Dimenticasti di quel sogno, perché pochi giorni dopo si ammalò. Ma ora vedi nitidamente che quello non era un sogno. Alla luce dell'ultimo mese, di tutte le cose impossibili, di tutti i drammi che hanno coinvolto divinità e altre creature ultraterrene, ora sei certo che si trattasse del seme di un'ascensione, o qualunque termine userebbe Nibel per esprimere questo concetto. Tua figlia era destinata a diventare il nuovo avatar di Meiklon, e Alexandra Mukelos lo sapeva. Cambio di scena. La centrale di Apeira. Il timido chiodino che era spuntato nella crepa del muro del nucleo è ora in compagnia di mille altri. La centrale è interamente ricoperta di muffe nei condotti. La creatura all'interno del nucleo ha uno spasmo. Un istante di blackout, si accendono le luci rosse. I cavi si staccano, tirati dalla giovane ragazza che riprende coscienza dopo decenni. Il liquido che le veniva iniettato nel corpo si disperde sul pavimento del nucleo, colorandolo di tinte calde, contrapposte al solito azzurro biancastro. Ha solo il tempo di fare una breccia nel muro tirando le ife, prima che il suo corpo collassi a terra esanime. Esanime. Cambio di scena. Di nuovo ad Esboson. Sopra Nibel compare lo spettro di una giovane ragazza che, con le dovute proporzioni, gli somiglia. Come se lo volesse abbracciare da dietro, estende le braccia intorno a lui. Poco prima di toccarlo, le allarga di nuovo al massimo la loro estensione e parla a tutti i presenti. La memoria di ciò che ero è stata a lungo tempo mistificata, cancellata, dimenticata, imbrattata e traviata. Ma io sono Maeklon, non un dio dei funghi, non un dio del marcio e di ciò che è corrotto. Io sono la divinità della vita sotterranea, e voi giacerete nel mio dominio. Il terreno si apre in mille punti e da ciascuno di essi esce fuori una mano fatta di radici. Afferrano il santo, il cui nome ci è ancora ignoto, la Mukelos nascosta poco più avanti nelle fronde del bosco, Nibel ed Erin. La terra trema e venite trascinati nel sottosuolo. Sul soffitto si forma una cupola quasi interamente coperta di radici a forma di braccia, in eterno movimento, ma che lasciano traspirare giusto alcuni timidi raggi solari. Tutto intorno a voi si è formato un colosseo sotterraneo, a 30 metri dalla superficie. La Mukelos è faccia a terra, coi vestiti imbrattati e i suoi averi sparsi per la grotta. Il santo si libera facilmente dalle radici e riprende a volare. Devin si fa scudo con Nibel, che è l'unico che sembra essere stato portato qui dolcemente. La voce di Maeklon sussurra all'orecchio di Nibel. So che forse avresti voluto altro, ma questo è tutto quello che il mio potere attuale mi concede di fare. Ti ho dato la possibilità di vendicarti. Di vendicarci. Per favore, non dimenticare il nome di Rebecca von Slebila, costretta a diventare l'araldo di Maeklon appena diciottenne. Non dimenticare che quello che è successo a te e alla tua famiglia è la stessa cosa che è successa a me. Non dimenticare l'odio e vendicati per entrambi, Nibel. Cambio di scena su Roll20. Please do not pay attention to the right side. L'avatar di Maeklon, o qualunque cosa fosse la presenza, svanisce, lasciandoti una frazione del suo potere, la capacità di resistere. Nella scheda è un'abilità nuova. Oltre a questa cosa, tutti avete ottenuto dei punti, credo, tranne il dottor Santo. Potete distribuirli al volo, ce l'avete a riga 44-49 come sempre. Intanto finisco di fare la scena. Era importante fare sta scena prima di dirvi di guardare la scheda, perché altrimenti avrebbe visto la cazzo di spell nuova prima del dovuto. Eh sì. Parla Devin Hannibal. Per quanto mi piacerebbe, non penso che riusciremo ad ucciderli. E senza Mifo Magister non abbiamo un modo di sigillarli. Tra un minuto mi fanno sapere che arriverà la cavalleria. Sei tu quello che sa menare le mani, quindi preferisci che ti tenga vivo o hai un piano diverso? Io rallenterò il più possibile. Cerca di farmi da supporto. Agli ordini. E tiene il tempo, nel senso ti farà sapere quanto manca. Puoi fare un test di percepire per l'area, se vuoi. Yes. È un D10, è un tiro normale. Fatto questa cosa, tagliamo l'altra scena e poi è il tuo turno. Adone con la cosa di Rodbold fa ridere. Sì. Ma ce l'avevi? Megan Lucky. Sì. Non rerollerò. Va bene così. Ok, sei furioso, però sicuramente vedi che questa qua è la Mukelos e questo qua è... c'è la faccia di metallo di Adone sopra il corpo di un angelo meccanico, questo qua dietro è Devin, e queste sono muri di radici, non arrivano fino al soffitto ma sono molto alti, e senti che tu puoi attraversarli, gli altri no. Ok. E sei a 30 metri di distanza dalla superficie. Questo vuol dire che anche Adone volando ci mette qualche turno ad andarsene. Certo. E okay. Puoi ragionare come vuoi su quello da fare. Devin praticamente è un'estensione del tuo personaggio. Gli dici cosa vuoi che faccia e lo fa senza spendere azioni. Rapido okay. Cambio di scena, poi ritorniamo da te. Sì, fai che mentre leggo qua. Fuori dalla chiesa, nella seconda piazza per dimensioni di Esboson, il ragazzo dai capelli rossi avvolto dalle fiamme barcolla. Quando vi vede, le fiamme si bloccano per un istante, permettendogli di parlarvi a Lieto, Mif e Daidos. Dovrei fare la voce di Yona, che non mi viene particolarmente, quindi faremo una voce generica. Ho divorato una rabbia indescrivibile, vietata, negata agli umani. Quella che ho provato quando mi avete negato la conoscenza non è nemmeno comparabile. Ma non vi permetterò mai di negarmi ciò che mi spetta. Oh Apolliona, muro di occhi. Oh Aganlaga, il turbine di luce e fiamme. Il tuo servitore Laga, umile precursore dell'idillio in fiamme, ti implora di bruciare il mio corpo e con esso il mondo. Le fiamme lo avvolgono nuovamente, arrivando a superare anche i palazzi più alti. Come preannunciato, un turmine di fuoco lo circonda completamente e nonostante i suoi occhi siano normalmente coperti, vi sembra di scorgere solo questi. Yay! È lui! Noi! Esatto. Solo i suoi occhi bianchi all'interno della colonna ardente. Le fiamme si placano intorno al ragazzo, mostrandolo come lo avete già visto la prima volta sull'isola. Abiti di pelle bruna, foderati di pelliccia tribali e una benda sugli occhi analoga. Ogni suo movimento fa scaturire delle fiamme in ogni direzione e tutta la città sta già andando a fuoco, effettivamente. Aidos parla prima che Laga possa avvicinarvi. Immaginate che siete agli estremi di una piazza. Se non fermiamo le fiamme, questo brucerà tutta la città e non penso che riusciremo a fuggire abbastanza lontano da evitare di diventare arrosticini. Io posso creare una barriera per contenerlo, però sarà poi uno scontro all'ultimo sangue, nessuno se ne andrà vivo. Che dite? Ma non abbiamo più il sigillo. Perché il sigillo è stato... La pergamena è stata usata sulla... No. Mamma di... No. No. Però no. Ah. No. Hai allora... usato il suo di sigillo. È vero, ho usato il suo. E allora... Ce la possiamo fare... Mif guarda dietro e fa... C'è da indebolirlo. Veramente tanto. E poi lo si può sigillare, quindi bisogna dargli... Delle belle mazzate, anche se mi dispiace un po'. Aidos va bene. Si taglia i palmi con le sue stesse unghie. Ricordo che ha un cazzo di demone. E poggia il suo sangue per terra. E come se fosse la sua natura, il sangue va a formare un cerchio, un simbolo maledetto, che si estende poi per tutta la piazza, formando un grande cerchio. Inizialmente vedete una specie di grande cupola che ricopre tutta la piazza e è un campo di forza trasparente. Ed effettivamente questa cosa contiene le fiamme. Quanto ossigeno ci sarà? Non tantissimo. È una cosa da tenere sotto controllo, ma ci pensiamo più avanti. E l'altra questione è che molto lentamente vedete che in prossimità degli estremi di questa cupola si formano delle spine di ferro, di metallo nero. Sono di Aidos? Sì, cioè è successo subito dopo. Lui deve rimanere con le mani a terra, quindi dice okay. Fra qualche secondo la barriera diventerà semi-permanente e potrò aiutarvi. I miei scagnozzi li posso evocare mentre sono qui, se vi servono. Ma ne terrò qualcuno vicino a me come difesa, nel caso quel coso cerchi di uccidermi. Sì, meglio che ti difendi, anche perché non ho molte cose per gestire il fuoco. Dietro, hai la tua cosa che hai fatto al tempio? La cosa che ha fermato il tempo? Ah, sì. Sei Adone. Bene, sì. Sarebbe fantastica se la usassi tra un po'. Aspetta, non mi ricordo come la dici tu, ma mi sa che blocca anche voi. Fa un'area 2x2 se te in bubble. Sì, bubble. Non fermerà Mif, che è un caster che ha delle gittate giga enormi, quindi tranquillo, nel senso. No, ci sta. L'altra cosa che vi chiedo è, uno a testa, potete fare un test per o arcano o percepire a vostra scelta. Arcano è per capire che tipo di magia sta usando, percepire è per vedere i surroundings. Quanto hai a percepire? C'ho 8 ad arcano e percepire 4. E fai arcano io. Sì, tu fai arcano, io faccio percepire. Io arcano 9, però okay. Percepire 8. Quindi faccio arcano. Allora, decisamente. Percepire, oh. Esatto. Tirane un altro. 19 più 8. Io 12. 27 di arcano hai fatto? Sì. Ci vorrà un po'. Oltre ad utilizzare una forma estremamente raffinata di stregoneria, Laga sta si chiama Laga, l'ha detto. Sta chiaramente utilizzando delle magie aliene che provengono dal libro rosso che ha in mano. Non so se avevo menzionato che ha un libro rosso in mano. Sì, sì, l'avevo menzionato. Okay. Perfetto, ha un libro rosso in mano che sembra essere leggermente immune alle fiamme. Poi, sembra che tragga energia dalla sua stessa rabbia e forse anche da quella degli altri. Infine, il suo modo di combattere è meccanico e prevedibile, per cui, per quanto devastante, è possibile sfruttarlo a vostro vantaggio. Anche se la sua riserva di forza magica sembra inesauribile, percepisci che è proprio come una fiamma. Se brucia più forte, si consuma più velocemente. Percepire quanto hai fatto? Ho fatto 12, 4 più 8. 12, facciamo in fretta. I vestiti che indossa sono ignifughi. Ma non per questo sono indistruttibili. Fine, questo è quello che riesce a comprendere dei surroundings. Ci sono dei banchetti, quelli li vedete entrambi, anche se facevi zero, te l'avrei detto. Sono pieni di oggetti, tendenzialmente infiammabili. Se ci andate vicino potete controllare per vedere se trovate qualcosa, ma a voi scegliere cosa cazzo fare. L'area è questa qua che vedete. A sinistra io ho una barra che la vedo. Segnala quanto sta bruciando da 1 a 10. Al momento è a 0. Prima, quando era completamente engulfed in flames, era a 10. Ora si è calmato ed è a 0. Okay. Io vi ho descritto la cosa. Potete interagire fra di voi per decidere cosa fare in chat privata o in chat, come cazzo vi pare. Non so se è voluto, ma le barre delle statistiche dei personaggi sono visibili. Sì, quelle dei vostri personaggi. Aspetta. No, quelli dei nemici. Ma vedete dei nemici? I numeri? No. Bene, vediamo la percentuale. Sì, sì, la percentuale è perfetta. Okay. È voluto. Okay. Quelli dei personaggi non sono. Dei personaggi giocanti non sono aggiornati. Cioè, usate le schede vere. Sì, l'avevi già detto la volta scorsa. E spero che ci divertiremo un sacco. Il primo turno è quello di Nibel. Ok. Quindi devo aggiornare usando i dati che ho nella scheda? Sì. Ok, perché ho 60 HP invece di 38, fammi vedere evasione 13. Credo tu abbia usato un overpower, quindi hai 60 più. Sì, una. Sì. Ok. Sì, sì, ce l'ho già fatica accumulata. Ok. Quanto ho di movimento? 7 metri e mezzo. Io ho 5 di movimento. Sprinter mi dà metà. Che sono a tipo un quadretto di distanza per avvicinarmi. Di troppo. E mi metto qua, usando sprinter. Ok, stai andando dal santo. Sì. E overpower attivo. Sì. Cerco di... Vabbè, Nibel corre, si strappa la, cioè, la giacca che era ormai distrutta, si strappa la maglia che ormai non gli serve più e corre verso Redacted e non può fare niente al momento, però si mette tipo così in posizione di pronto a tauntare, diciamo. E non posso fare nient'altro, quindi sprinter mi aggiungo uno in più di coso, overpower è già attivo. E basta, niente, termino il mio turno. Devin ti casta Hasten. Il GOAT. Quindi guadagni più 5 di velocità di movimento. Ottimo, e più 2 di evasione. Puoi muoverti di 5 case all'empio se vuoi. Ok, posso farlo subito? Sì. Ok. Allora mi metto qui. Non mi segno la fatica di sta roba. Sì. Quindi di evasione ci avrai 16 al momento. Sì. Questa cosa dura fino alla fine del tuo prossimo turno. Cioè, durante il tuo prossimo turno hai ancora più 5 di velocità di movimento. Quando passi non hai più il bonus. Nella Ho ancora un Beast Power e tiro 3 cazzotti. No! Allora, sì. Redacted. Non credo di aver modo di fermarti questa cosa. No, non reazioni. Tutti voi maghi, la vostra debolezza sono i pugni. No, ho una reazione, però mi fa... La puoi usare se non hai i nemici vicini. Sì. Ok, allora. Pronto a schivare, Redacted. Cominciamo. Sono... 3 più 6 più 2, quindi 5 più 6, o no, più 11 per precisione, no? Cazzo. Cioè ho 5 più 6. Sì. Intanto che fai i conti, ti dico già e che... ti chiedo una cosa io. Sull'azione di volare, sì. Ciò, e ottieni un intervento, ma se per ogni magia lanciata sempre o lo ottengo e basta? Intervento. Scusami, so io che non so come funziona la grammatica. Uso prowess sull'ultimo attacco. No, quando voli. Quando beh, voli quindi guadagni... ce l'ho in un intervento. Sì, sei castato una spell nell'ultimo okay. turno, sì. Se ho castato una spell, quindi non ce l'ho quella cosa lì adesso. Ok. Tra l'altro... non guardare l'uno perché sì? Ho fatto prowess, quindi... Hai fatto 20 e 16. Ho fatto 19, 20 e 16. Ok, hittano tutti e tre. Puoi tirare i danni. Stai tranquillo, Birio. No, no, no, io... Ti dico io cosa c'hai per sta roba qua tra un secondo. Ce l'hai la reazione, in realtà. 20 danni totali? Sì. Puoi prendere uno fatica per dimezzarli. Lo faccio. Ok, quindi subisci 10 danni. Segni tu? Sì, ho segnato io. Quello che vedi è che da qualche parte sul santo c'è un rosario che lo protegge. Che sono dei biz uguali identici a quelli di Senic, molto più piccoli ovviamente, sì. E assorbono l'impatto. Ok, sono i primi due sono attacchi da taglio e l'ultimo attacco è danno da impatto. I primi due sono danni da taglio? Sì, perché ho usato Claw. Cazzo, Birio. Per fare due attacchi quello non lo riduci però. Cioè io sto andando, in ordine considerando che i due attacchi sì. base sono così, cioè non è per prendere i numeri più, sì, sì, più sì. grandi. I primi due entrano tranquillamente, il terzo viene assorbito. Cioè, sì, viene... quindi riduci, cioè prendi 2 danni in meno sostanzialmente, quindi 18. Sì, sì, sì. Fatto i conti. Oggettivamente, per descriverti dove sono i bits, sotto il petto c'è praticamente una specie di contenitore dove vedi un occhio. Vedi che prima di ricevere il colpo l'occhio si ritrae con un rumore meccanico e viene presentato questo rosario che riduce l'impatto. Okay. Perfetto. Vai tranquillo. Ho l'ultima azione di Devin che usa Enshroud e se lo state guardando vedete che diventa dello stesso colore, dello stesso materiale del terreno. Ok. Se non lo state guardando... Devin è sparito nel nulla. Cioè, è un gelo. È un camaleonte. Annibale è girato di schiena un momento rispetto a lui, quindi non ci fa caso. You don't know. Vado a prendermi uno snecchino. Cavolo, li devo segnare sulla scheda perché voglio che vedano la tua percentuale di vita, Sirio. Ok, sì, sì, va benissimo. Segnali lì sulla scheda, la vedo. Ok, ho segnato sia sul token che sulla scheda, aspetta. Va bene. Io ho finito il turno di Devin, toccherebbe a Bedone e alla Mukelos. Vuoi che faccia prima lei? Sì, io alla peggio... Sì, fai prima lei, anche perché... Badone vuole dire una cosa prima di fare il suo turno e vuole vedere la risposta di Nibel. La Mukelos inizia a correre, cioè spende l'intero turno per correre. E corre quasi sulla sua roba. Non l'avevate notato prima, ma la sua borsa è stata trasportata lontana da lei e lei sta correndo a riprendere i suoi averi. E mentre corre grida a The Thing: Angelo Custode, difendimi! No, no, sta canzone è insopportabile. È inadatta. Il breakdown ci stava e il resto no. Prego, andiamo avanti. Questa è molto bella. Mio Angelo Custode, difendimi! Turno mio? Sì. Badone, redacted, guarda... Badone va benissimo. Guarda l'umano davanti a sé e dice: uccidere la Mukelos porterà solo altra distruzione. Aiuterà la creatura che voi avete chiamato come... Dice un nome incomprensibile e poi ho anche uomo che ride. La sua morte lo aiuterà. Ok. Come reagisce Nibel? Reagisco poi dopo quando ho il mio turno. Per quindi, per quanto ti riguarda, non ha reazione a questa cosa. Perfetto. Non dico nulla. Ah, no, cosa importante. Ho sentito Devin che diceva che sta arrivando la cavalleria? Rollon di 10 è percezione. Perché è hai molto più, importante. Sì, hai più 6. Eh? 11. Hai sentito che arriva qualcuno, non hai capito chi ha detto. Ok. Ok. Cazzo. Oddio, cosa stai per fare? cosa sto per fare secondo te? Ok, sì, ho capito. E a questo punto allora il santo decide di castare Time Anomaly in the face di Nibel. Ok, puoi prendere lui per intero. Devi resistere con difficoltà 22. Ok. Allora, L'ho fatto prima, non te l'ho detto perché stai finendo di parlare. Ho messo i punti in giallo. Ok, quindi c'hai più. Solito di un livello, cioè non cambia la sega. Dai, io ci crediamo tutti in te. Anch'io, Sirio, credo in te. No! Immobilizzato dal manuale dice non puoi usare azioni gambe e hai, cioè non puoi usare azioni di movimento e hai l'evasione dimezzata. Ripete uso il test... un obolo dalla vanità giusto per sì. Se posso sì, posso sì. Usarlo come reazione? Sì reazione, ok, ce n'hai una per turno di reazione, quindi se la usi qua non puoi usare sì, quella sì. Di certo prego. Okay, non cambia niente. No, però hai ridotto di 2, 4, 6 la difficoltà del malus, che è sceso da 22 a 16. 22 meno 6. 6 16. Sì, vai bene. Mi segno la difficoltà qua. E basta, durante il tuo turno puoi comunque muoverti, cioè puoi comunque fare robe, non puoi usare azione gambe, non puoi usare, cioè c'è cioè l'evasione dimezzata. Questa era la tua prima azione, se mi ricordo bene ne hai ancora due. Sì, e ho anche una passiva. Sì. Vuoi descrivere Time Anomaly o va come vuoi? Sì, Time Anomaly. Vedi che Meskenos ti spiega le sue ali. Name drop. L'abbiamo sentito, non l'abbiamo sentito. Vabbè. Te lo so dire. Il santo! La frase di San santo Meskenos, santo della fine, ti spiega le sue ali meccaniche. Apre le braccia e crea questa anomalia temporale. Dopodiché, vedi che si crea una corona fatta di ingranaggi attorno alla sua testa, in cui dietro, vedi, è praticamente una contatempo, cioè ricorda un po' quello, sì. E dietro vedi che si forma un 1. Hai capito, Bianici? E parte da 10, credo. Perfetto, vedi 10. Dammi un attimo che te lo faccio, perché ho già guardato che si può fare sta cosa qua. Eccolo qua. Bene. Devo appunto si potesse mettere... Ok. Bene. Bene, dopodiché io mi posso muovere. Sì. Hai più 4 velocità di movimento. Ok, posso usare la mia passiva su Nibel? Si attiva automaticamente alla fine di ogni turno, quindi se ti muovi troppo no. Ah, ok, perfetto. Scusa un attimo che guardo. Se stai fermo al prossimo turno la tua velocità di movimento si accumula. Non voglio stare vicino a Nibel. Ci sta. Allora, scusami, quanto ho di movimento adesso, quindi? 8 totale. 8. Non era quello che volevo fare. E i muri sono muri per te. Sì, solo sì, per sì. Nibel, non so. Ok. In che senso? Nibel può attraversare i muri, tu no. Ah, non sapevo che Nibel potesse attraversare i muri. Okay. Ok. Va stavo bene. Ok, scusami. Ho visto dove è sparito Devin l'ultima volta? All'estrema destra del coso. Vado alla ricerca di Devin. Ci sta. Passi sopra Nibel. Mi sembra che arrivi qua al massimo. Sì, quello è il massimo. Il range è 3 dell'altra cosa? Vicini. Sì. Quindi... Ah sì, entro 3 celle, sì. Sì, quindi non lo vedi attivarsi. Ok, vuol dire che non è vicino. Perfetto. E tu l'hai visto, cioè che era poco più avanti. e hai finito, hai due interventi, cioè puoi fare due reroll durante il tuo prossimo turno. Perfetto. Ho finito la loro sezione, passiamo agli altri. Ok, e inizio io. Vai, va bene. Dai. Sì, sì, okay. va bene. The Wildo! Non so se sei in range. No, non sono assolutamente in range, devo lanciarmi tipo i pesci. Sono in range. E allora, io c'avevo l'ultima volta che c'era stato il combattimento. È stato un combattimento unico o l'abbiamo interrotto? Perché ci sono state un sacco di scene. Questo è un altro combat. Questo è un altro combat, quindi lo speed up l'ho perso. Sì. Sì, ok, c'ha senso. E niente. Sì, sì. E mi lancio verso di lui. Deve averci 8 di movimento con... Correndo per 2. Sì, sì, sì. No, cioè, nel senso, deve averci... 4. Sì, sì, 4. 4 5, correndo per 2. 10. Ah, no, 5, 10. Scusami. Sì, sì, sì. 10. E quindi sì. Io direi che... Sì, sì, sì, no. Senza movement speed. Se corri finisce il suo turno. Sì, sì, sì, sì, sì. Mi sto avvicinando... Ehi, ehi, ehi, dietro. C'hai i power di muoverlo? Sì. Sì, sì, sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Questi sono 10. Ok, Miff. Io non ho i power di muoverlo. Ci tolgo i power. Revocati. Revocati. Vai. Sì, eccoci, ok. Ok, anche Miff si muove e si muove... Sì, si mette vicino al carretto. Corri o...? Sì, sì, per fare 8 per forza. Ok. Volete dare indicazioni a Daidos su cosa deve fare o...? Resistere. Sì, tenerci vivi con gli imp, direi. Non corrono così tanto. Ai verano, con calma. Fun fact, Aidos è di livello più alto di tutte le persone coinvolte in questa storia. C'ha un qualche anno in più di noi di vita. Sì, sì, sì, sì, esatto. Ma di tutti, eh. Cioè, ha più anni di tutti sommati, probabilmente. Aveva preso danno? Sì, aveva preso un botto di danno. L'avete proprio corcato, sì. Povero Aidos. L'avevamo corcato, Gli faccio spendere 5 per sammonare un altro imp. In una zona libera entro 10 celle. Lo spawna qua, proprio cade dal cielo, tipo meteora. E gli altri due imp corrono nella vostra... cioè... verso di noi. Uno di qua. E uno qua. E l'ultimo rimane davanti a lui a fargli gli da difesa. Cos'altro può fare? No, niente, perché sta mantenendo la palla. Vedete che come si chiamano, gli aghi di acciaio iniziano a crescere e ora sono già a un metro di altezza. Sono delle simpatiche ringhiere al momento. Ok. L'aga, che per ora era calmo, fa quella roba bellissima da Super Saiyan. Sì, di stringere i pugni, urlare, e viene avvolto dalle fiamme. La sua rage sale a 2. Questa è una scena per 2. E poi sì, questa ce l'ho. Si muove di 5. Si muove di 5 e tira un pugno in faccia. Sì, si è mosso 2 volte in un turno. Avete altre domande? E tira un pugno all'imp. E è un tipo di fight in cui non mi importa che sappiate le loro statistiche. 14. E l'imp viene colpito, chiaramente. Devo rollare la vita di tutti gli imp. Gli imp di coso non hanno la vita maxata. ha 14 di vita questo imp. Wow, ho provato a reci due volte. E in realtà subisce pochi danni. Subisce esattamente un di 2 più 4 danni. Subisce 5 danni. Gli tira un pugno in faccia e gli fa un terzo della sua vita. Io ho finito il turno di Laga. Possiamo tornare all'altra metà dello schermo. Eh sì. Visto che probabilmente è un combattimento lungo, io ti tiro il D4 che è moltiplicato per S per overpower, per la durata di overpower. Ok. S quant'era? E il tuo giallo più 1. Quindi D4? Sì. Quindi 4... Per 3, 12... 4... Puoi non segnarlo. Il combat non durerà 12 turni. Ok. Ne dura 10. Ok, perfetto. Però dico... Vengo paralizzato alle gambe, vedo Adone che vola, va nella direzione opposta e gli dico... Fanculo l'uomo che ride, fanculo la Mugros. Non sei un bravo... una brava guardia del corpo. E punto la mano nella direzione della Mucelos e lancio anche da Tom Maclon. Bellissimo. Senti che non potrai farlo tante altre volte. Anzi, sì. Potrebbe essere l'ultima. Mi puoi rollare, ti dico esattamente i dadi, perché lo casti max power. Sono 5 di 8, però lei può evitare per dimezzare i danni. Okay. Ah no, evitare o più 0. 9 non lo evita. Sì, sì, sì, sì. Cast of fuck you. Mi rolli danni, sono 5 di 8, dicevo. Sì. Ho fatto 30. Ah, scusami, l'hai fatto prima di me. Noia. Scusate. Questo è Nibel che prende a pugni a distanza, fa Jotaro. Ha sammonato. Wow. Star Platinum me la sta troncando di botte. Perfetto, non ho nient'altro da dire. Questa era la tua prima azione. Consumi un mana penny per farlo. Sì, sì, sì, l'ho già tolto. Anzi, in realtà puoi farlo ancora, ma la potenza è... fa dei diminishing returns. Sì, sì. Qual è la reazione di questa donna? Dobbiamo sapere questa donna come reagisce. Aspettavo che fosse il turno a fare tutto. La mia velocità è dimezzata, hai detto? Sì. Ok, uso sprinter. Sprinter si calcola sulla velocità applicata ad haste oppure no? Dammi un attimo. In realtà sì. Ti sposti la metà del tuo... Sì, sì, il totale. Quindi hai... O 15. Che è 15, quindi è dimezzata. No, quindi è 15? 5 più 5, 10, fratto 2, 5. No? Che senso, scusa? Hai la velocità dimezzata dall'anomalia temporale. E sprint ti fa muovere... di metà della tua velocità. Ah, ok, sì, sì, no, se lo so, stavo dimezzando okay. Dopo alla fine io. Ah, ok, ok, okay. Ci sta. Cioè, non lo so, se dipende tu, dimmi tu come funziona il calcolo. Così, io avrei fatto 15 e poi diviso a metà, quindi 7. Perché 15? Perché ho 10, perché ho haste. 5 è la metà della velocità è stata con cioè, sprinter. Se ti muovi dimezzato. E fai sprint, fai tutte e due. Se no non ho capito perché arriviamo a 15, perché è 5 più 5. Perché ho 5 di movimento base, no? Sì. 5 con haste, quindi è... 10. È 10. Sprinter mi hai detto che è la metà del mio movimento in più. Sì. Quindi passo sì, 10 a 15. Sì, ok. Quindi sarebbero 15 diventato 7. Sono due azioni separate. Cioè, una in cui ti muovi di 10 e una in cui ti muovi di 5. Perché è un'azione extra sprint. Ah, ok, ok. Quindi cosa cambia a livello di avere velocità dimezzata? E nulla. Che c'ho 5 Ti muovi di 5 e poi ti muovi di 2, sì. Quindi 7 alla fine. Sì, è uguale. Però non capivo in che senso arrivasse a 15. Sì. Scemo io. Vediamo se riesco. Qua. 6 è qualcosa. Haste in realtà ti dà anche un'azione base aggiuntiva, ma mi sa che non la puoi usare perché non puoi usarla per azioni che hai già effettuato. Ok. Le lancio il piccone. Valido. Il Roland D10 è un attacco. Sì, non credo di poter aggiungere niente, mi sa, perché... No, cioè, se contiamo le... Sì. È un'arma da lancio, però poi non hai proficiency. È incantato un Maeklon, è una magia naturale, quindi puoi ottenere più 3 a esperienza magia naturale. No. Ok. Le altre volte non l'ho messa. L'ho lanciata altre 2 volte prima, non so se conta. Ma segna, te la prendi più 6. Lo evita. Posso fare il turno di lei? Vai, viene travolta da uno tsunami di braccia fatte di radici che la sbattono a terra e riesce ad alzarsi giusto in tempo per evitare il tuo piccone e slidare sulla sua borsa, frugare, prendere una manciata di manapenny, bestemmiare perché non c'è la cosa che stava cercando, girarsi verso di te, spaccare un manapenny e spararti. È incantato un Maeklon a te, Leiotos. Devi evitare con difficoltà 16. Conta okay. Che cosa non ti riduce a evitare, quindi hai più 3 di base. Sì. Non lo eviti. Questo fa un male porco. Ok. 8-5 con tutti e 2, madonna. Sto cercando i tiri di resistere di merda. Ti fa 33 danni da veleno. Ok. E puoi segnarli sulla scheda o sul token dove preferisci. Sì, sto segnando sul token e anche sulla scheda. E con la sua seconda azione, cioè fa un'azione extra per guardarsi intorno, nota una roba e tu di conseguenza noti la stessa roba che nota lei. Sì. Cioè che... La vedete? No. Qua non vedete niente? Oh, no. È visto che è pingato. Sì. Ok, allora la rifaccio. Lì okay. C'è una mana unit. E lei arriva a metterci il piede sopra. Siete entrambi feriti notevolmente, eh? Cioè state sanguinando o sputando roba perché siete più intossicati che altro. Dall'altro lato faccio prima Devin, poi faccio fare. Devin che è translucido, cioè se sta fermo non lo vedi, se si muove lo vedi, ti parla Sam Meskenos e dice: credevo che fossimo amici. Meskenos a sto ormai madonna si gira e dice: ok, credevo fossimo amici, Sam Meskenos. Non provo sentimenti di amicizia verso qualcuno che ha ritorto contro di me subito il mio nome. È stato interessante il trucchetto che hai realizzato prima. Adesso ti donerò quello che dovevo fare già precedentemente. Non vedo l'ora di vederti provare e ti spara. Porca tra, che cazzo vuoi? Oh! Sono in merda! Allora, ci spacco la faccia. Porca troia. Cosa gusta? 29 Space Racer. Esatto. Space Racer. Non fa un cazzo di danno. Cioè, a te no. E questa cosa era fatta per uccidere il Magister Magi. Tu non sei il Magister Magi. Yeah. E quindi ti fa una manciata di danni. Ok, io l'intervento posso utilizzarlo per fare cosa, ricordami? Puoi fargli rerollare il tiro per colpire. Se vuoi. Però si tiene quello se... Cioè, sì. Se va meglio o peggio, si tiene quello. No, tengo il peggiore dei due. Ah, io uso un intervento. Ne puoi usare anche due. Qua ho fatto un min damage. Va benissimo. Cioè, se rerollo anche il danno. E non farò min damage, probabilmente. Qua prendi 6 danni che... Va bene, okay. Prendo questi. Hai ancora 2 interventi che li puoi usare durante il tuo turno per attaccare più efficacemente. Con la sua... seconda azione del turno, il nostro beniamino Devin casta Shapeshift e vedi che il suo braccio non era veramente fatto di pelle, quello che gli hai bruciato, era fatto di pietra. La pelle si scrambla e il terreno gli va a creare un'altra protezione, tipo gara quando fa l'armatura. Sì, ho capito, ho capito. Ok. E Devin saggiamente va qua. Il tuo counter scende di 1, se non erro. Sì, vado a 9. Ok. Non gli fa un cazzo piacere il fatto che il counter vada a 9. Prego. Benissimo. Che siete tutti lontani, mannaggia voi. Anzi, no, scusa, vai in alto. Cioè, è la stessa distanza, però in alto. Io c'ho sempre 8 di movimento. Quante spell hai castato? 0? No, ho castato adesso? Sì. Ancora nulla. Dall'ultima volta che ti sei mosso. Perché si ricarica. Ho fatto 1. Sì, due. No. Si è resettato. La tua velocità di movimento è 4 più il numero di spell che hai castato dall'ultima volta che ti sei mosso. Ok, quindi ho 4 adesso di movimento. Sì. Se casti, okay, vai a 6. Se casti di nuovo, vai a 8. Perfetto. Non te l'ho scritto, ma puoi fare quello che cazzo vuoi con le skill. Sì, sì, faccio quello che voglio. Posso muovermi, castare, poi rimuovermi? Sì. No. Sì, sì, puoi fare come vuoi. Nibel, intanto mi rolli per rimuoverti l'immobilizzazione. Sì. Cosa, resistere sempre? Sempre resistere, difficoltà 16. Tiro direttamente 2 di 10. Più 3, quindi è 13. Il secondo lo rerolli. E se fai almeno 15, 4, ho fatto. 15. Basta, non sei più immobilizzato. Ok. Ok, ho perso anche Ace, tra l'altro, quindi... Sì. Il mio movimento va a 5. Sì, sì. Quant'è che ottenevo di 2 di evitare? Sì, quindi è passato. Ok. Ok. Meskinos, chi lo sta guardando? Vedete che fa questo gesto delle mani e casta Absolute Order. E quindi vorrebbe loccare... Può farlo solo per Nibel e, sì, e Devin, perfetto. Sì, sì. Allora a voi due locca l'azione di movimento. Perfetto. E poi di magie, io non so, Incantatum Macron come... Magia naturale, ah, l'ho detto prima. Ok, vi locco il movimento e magia naturale. Countdown scende di 1? No, non adesso, no. Guadagno non... però tu di movimento. Sì, esatto. Si muove. Ok. Puoi muoverti di 6. Sì, ma ho già fatto 4, mi sono mosso di 2 adesso. Ah no, allora non puoi più muoverti per sto turno. Cioè ti muovi una volta per... Ok, allora rimango lì. Potresti camminare se vuoi. No, rimango in volo perché okay, c'ho la cosa in più almeno. Sì, sì. Ho altro da fare, credo che non ho niente in range. No, uso Saint Protection. Ok. Allora, ricordati che al prossimo turno avrai più 2 di velocità di movimento. E ti do... Te li segno come punti di vita, tanto è uguale. Sì. Vuoi descrivere cosa fa? Praticamente vedete che l'occhio, diciamo, dentro, all'interno del santo inizia a ruotare e vedete che da nulla praticamente si formano altri pezzi di metallo che si vanno ad appoggiare sul corpo di Meskinos, proteggendolo oggettivamente. Tipo cavaliere del... Esatto. E puoi rollare un D4 perché questa roba ti recupera vita. Tu. Ok. Hai un bel po' di vita. È fine del vostro turno. Ricordati che hai il più uno di movimento. Le tue robe di luck si rimuovono per ora. Andiamo dall'altro lato. Scegliete voi chi inizia tra Lieto e Mif. Vai, Lieto. Vado io? Ok. E devo fare un passo in avanti per castare Time Bubbles di lui. È così poco di range? This is annoying. Dovrebbe essere tre celle? Due? Ma non c'è più tipo giallo o blu? No. Ma te non c'hai Time Bubble, te c'hai proprio The Ward. The Ward, sì. Ah, ok. Raggio 5. No, no, 5, sì. Ce la fai. No, avevo letto... Forse devi fare tu due passi indietro, a meno che non sei... No, parte da me e sono invulnerabile all'effetto. Ah, ok. E sfortunatamente ci sono anche due imp dentro questa cosa. Sì, che verranno paralizzate a meno che non rollano. Esatto. E lo casto e non ha senso fare... No, non c'è senso fare niente. No, niente, è solo un cast. Devi rollare per esistere. Ah, no, lo... Esatto. Sì. Volta per volta. E... vado a 10 di fatica. Non mi torna la dimensione di questo cerchio. Perché non è un cerchio. Cazzo, è troppo range per me. Così. Ok. Terraggio. Sì, 5. E... sì. 5 così. Costa 5 di fatica, se te le aggiungo io, te le sei già segnati. Le ho già segnati. Ok, e guadagni 3 di esperienza a teurgia ontica, a tua scelta. Hai ontica? Usato un'azione per sta roba, quindi c'è ancora un'azione base e un'azione extra. Sì, posso castare un'altra magia in realtà. Hai una stack di speed up. Ma stack di speed hack Thunder corso di lui. Tanto. No, devi prendere il libro, brava. La tattica, dove è andata? Non ah, vero, scusa. Okay. No, c'è. Thunder sul libro. Si apre una bocca sopra il niente. Ma no! Thunder Call colpisce anche il libro. Thunder colpo colpisce l'area dopo un turno. Un turno. Sì. E... ma gli sparo. Sparo al libro. Tira per colpire. Conta che il libro ha 5 di evasione in più di lui. Perché è una parte del suo corpo. Cioè, ah, una parte okay, del okay, suo okay. corpo. Anche se è fermo? Sì. Non credo riduca. No. Cioè, The Ward non è ancora attivo in teoria. Cioè, gli fa saltare il turno all'inizio del suo sì, turno. Sì, però non è affetto. Quindi non fa nient'altro. Non fa, cioè, non fa il turno. Semplicemente. Esatto. Scusa se è poco, eh. No, però è a dire, cioè... Perfetto, hai maestria ontica 2, quindi in realtà è raggio 6. E... raggio 6, sì. Ontica livello al 20 a sto punto, vero? Sì. O 30, 20. No, 30 al terzo. 30. E... niente, rollo per colpire. Quanto hai di bonus per la pistola? Più 4 da mente. Basta. Più 4 da mente il manavolver mi sa che non c'ha. C'ho maestria arma da fuoco 1, quindi c'ho più 2. Sì, quindi no, totale 14. Andiamo 14 a vedere se basta. Non basta, ma gli scende di 1 la. L'evasione. E. Sono sempre 3 XP arma da fuoco? Sì. Quando sparo sì, o quando colpisco? Sì. No, quando spari. Conta che tu c'hai le cariche della cosa e dopo sì, che l'ha sì, modificata sì, la tipa si scarica. E 4 XP arma da fuoco. Era già carica? Se era già carica? Sì, c'aveva 3 cariche, c'aveva. Ok, è rimasta a 2. Yes. Ok, hai finito il turno? C'avevo un movimento da fare. Come vuoi. No, oh. Perché hai fatto una spell e un coso, quindi non puoi muoverti. Extra. No, ho fatto la spell come azione extra in teoria. Ah, ok. Allora va bene. C'avrei un'azione base da fare. Oh, potrebbe essere movimento. Cioè, me l'ho fatto, io posso anche levarmi il cazzo. Esatto. Cioè, ciao. Okay, 4 indietro. 5 indietro, scusa. Chi sono io? Sono scemo, no? Vai, divertiti, Biff. Biff guarda lieto come per dire, ma porca puttana, e tocco il carretto e casco Manifest. Ma nella bubble ci puoi entrare, eh? Cioè puoi mi fare blocco. Tutto il turno. No, all'inizio del prossimo di... turno. Sì, ma mi vuol dire che devo fare due azioni di movimento, non ho abbastanza range. Io mi segno la non ho abbastanza range. Cioè, genuinamente non riesco a fargli nulla. C'è niente da range. Cioè, è tutto melee. Non posso fare due azioni di movimento. Cioè, sì, sì, per un altro turno per gonfiarlo di botte, dicevo io, no, adesso. Fantastico il momento di gonfiarlo di botte. Io vorrei togliergli quel cazzo di libro che lo power up, ok? Cioè, secondo me non è la soluzione gonfiarlo di botte. Devo capire quanto qua c'è. Cioè, possiamo fare entrambi. Sono totalmente esclusive le due cose. Chi è che ha la pistola di voi? Io sono quello con la pistola, infatti mi sono allontanato perché tipo... Aspetta, gli ho sparato, l'ho mancato. Su Manifest, dammi un attimo. Sì, non ti serviva il carretto per Manifest. Sì, no, dopo è... crea una copia di un oggetto che... ah, che conosco, ok. Sì. Lui è affetto da rabbia, giusto? Sì, è decisamente okay. Affetto da rabbia. Ok, dammi un attimo. Devo fare Ctrl F su questo bellissimo manuale. Cosa fa rabbia? No. Ah, cosa fa Emotional Power su rabbia? Esattamente. No, povera parlo non mi sembra una bella idea. Ok, no. Non mi sembra per niente una buona idea. Aspetta che controllo il range. Oh, scusa, sto mettendo così tanto. Ok, no, ci arrivo. Cazzo Terrify. È in range? Sì. Sì, perché ha comunque più giallo, quindi è 3x4... No, 3x5, 15. Devo rollare io, giusto? Sì, 5 più 6 che fa 11... No, ho detto una cagata. 10 più... 15. Fallisce. Subisce fear. Ok, perfetto. Cazzo Emotional Power. Una reazione. No. Per castare Sensing Beyond the Truth. Counterspell. È una spell? Non credo. No. È una roba del libro rosso. Ok. No, non è meno, è un'abilità di classe, scusami. Ok. Tanto, dopo sto combat, ricordami che ti posso mandare una classe aggiuntiva per l'altro gioco, che è questa. E Sensing Beyond the Truth semplicemente trasforma... È una reazione, quindi la può fare una volta per turno. Trasforma il malus in rage. Quindi non puoi. Non ha il malus in questo momento. No, anzi, gli è salita la rabbia di due tacche. Beh, l'hai scoperto ora. Siamo finiti prima. Posso fare un cazzo allora? Mi muovo. Ok. Te l'ho detto, è un puzzle sto fight, devi capire come giocare. Tocca ad Eidos, che vi chiede cosa deve fare. Gonfialo di botte. Fa un cenno e i... Ah no, devo rollare no, tre. No, mira al libro, porco dio! Ancora tu con il gonfiare di botte, mira al libro! Il libro è molto più difficile di lui da colpire. Capito, ma se ha quel coso in mano, ci casta roba? Probabilmente capito, ma se è morto non casta niente. Cioè, i morti non cazzo. Ma non puoi gonfiarlo di botte, basta. Secondo me se lo tocchi si incazza ancora di... Senti, fai come vuoi. Vabbè. Io... Una volta che sarai morto, poi la gestiamo in un altro modo. Esatto. La difficoltà è livello più meme. 5 più 4, 9. gli imp hanno di di resistere più 0? No, hanno più 1 a resistere, quindi uno resiste, quello che è davanti a lui, gli altri due sono immobilizzati nel tempo. Quello che resiste lo attacca 2 volte. Attacca 5 volte. Minchia, sono forti gli imp. Ogni hit ha più 5, quindi è 12, 14, 7, 11, 13. 12 missa. La sua evasione scende di 1. 14 hit gli fa un danno. 7 missa, gli scende l'evasione di 1. 11 missa. La vita come sta già scendendo. No, no, questo si gonfia di boh. E 13 hit, la vita gli scende di 1. La barra della vita è quella rossa, quella verde è la barra dell'evasione. Sì, sì, sì, lo so, lo so. Ma guarda come scende bene. Cioè, io che gli ha fatto un danno, E 15% la sua. Vabbè, fa anche questo, che cazzo me ne frega. L'imp paga della fatica e gli tira un ingranaggio. Che si scioglie al contatto, perché cioè si è fatto di fiamme. Ha fatto 10, incredibile. Basta. L'aga prende l'ingranaggio e lo incenerisce. Non rimane nulla. E tocca l'aga. Oddio, volete che evochi un altro imp? Ma sì, se può. È gratis. No, cos'altro può gratis fare? No, no, infatti, cos'altro può fare? Un cazzo di niente per ancora 2 turni. Cioè, finché la barriera non è completa. No, che se lo tenga, che si tenga le sue cose. Perché lo può spawnare direttamente qua, se vuoi. Ditemi voi. Io sono per il fatto che si deve preservare adesso. Ok. No, ma dai, ci può stare. Può castare un debuff, ma non è abbastanza ranged. E le altre robe che c'ha sono completamente inutili. Basta. Questo imp lo mandiamo. Rimane in difesa. Tocca l'aga finalmente. Che deve con l'aga per vedere se. Sì. Evita. Sì, è il nome di evita. Tocca proprio a lui. Ah no, era evitare, era 3. Se è resistere 2. E resiste. Scusa. Ok, resistere l'ho fatto bene. Casta. Casta Frenzy. Puoi counterspellarla se vuoi, Sara, prima che la faccia. Sì, lo faccio. Questa la faccio. E ho sei vita massima. Quindi sì, sì, rolli sì, nel range? Sei sì, sicuro? Sì, sì, sì. Ok. Rolli e non devi fare 1. Adesso me l'hai appena jigsaw. Ho fatto 2. Ma via! Togliti il mana. Aspetta che mi segno. Sì, esatto. Mi devo togliere, mi devo segnare tutto, mio Dio. Ok, sì. Allora. Qua siamo a 4. Via. E 3 faglie 2, quindi siamo a 6. Ho fatto una sola azione per le spell, quindi ho ancora 3 azioni. E tira 3 pugni all'imp davanti a sé. Ogni hit ha più 13, quindi entrano tutti. Tiro i danni. L'imp è stato sbriciolato. Vedete che dopo aver spaccato l'imp, la sua rabbia si placa, cioè si attenua. E in realtà il suo turno è finito. Ok. Andiamo all'altra metà della mela. Mi sembra che il primo ad agire sia Nibel, giusto? Le altre volte sì. Vai. Il potere di Abone blocca tutta la magia naturale. Sì. E il movimento. Sì. C'è cazzo che posso fare. I'm sorry, man. Beh, Beh dai, puoi lanciarlo ancora altre 25 volte. Oh mamma mia. Pensa a proteggerti, fra. Come? Allora, il tipo di azione finisce dopo questo turno. La spell rimane sigillata per 3 turni. Finché è attiva, tu non puoi ricastarla. Ma Overpower mi rimane attivo? Sì, sì, sì. Non è retro. Ok. Ti immagini? Cancella ogni forma di magia naturale mai usata. Non c'è l'azione di schivata, tipo, tra le... Puoi ripristinare la tua evasione. Che è l'equivalente... Perché, cioè... ma ce l'ho già cappata. E allora non ce l'hai. Uso sprinter e basta, allora. Non posso fare nient'altro. Rimango. Secondo me vale. Secondo me vale. Se ti muovi di... metà di 2. Ma anche se il mio movimento è annullato? Ma infatti... Sprinter sarà una, cioè, io lo userei per l'evasione, lo userei, basta praticamente. Cioè sì, Sprinter non è una usare spell. No, infatti. No, non può usarla perché è un'azione di movimento Sprinter. Ah. Cioè, figura come azione extra, quindi tecnicamente puoi, cioè puoi sia muoverti che prendere evasione. Ok, dimmi tu. Sì, sì, cioè da manuale potresti, perché sono le azioni di movimento che non puoi usare. Ok, allora mi muoverei di 2? Vai, sì. E guadagni il bonus evasione. 2. E il bonus evasione ce l'ho. E con l'aviazione basta, cioè non posso fare nient'altro. Posso legare una corda e lanciargliela per afferrarla. Puoi provarci. C'ho la corda da 15 metri. Devo fare. Faccio rollare. Hai preso danni? Sì, ok. Sì, ho preso danni. Un fottiglione, 33 danni. Matteo. Lanci la corda. Tra l'altro erano danni da veleno, giusto? Sì. Ok. Lanci la corda che effettivamente tocca la Mucelos, ma non la ingabbia. Ok. Niente, non ci posso fare niente. Sì. Devin. Madonna, perché sei di 20 cm fuori dal suo range. Not funny, man. Not funny, man. Cioè, può sparare prendendo meno 2 precisione. Quasi quasi lo faccio. Ah, tra l'altro questo consuma mana penny, quindi ok. E... ok. Sì, ti spara con meno 2 a precisione. Va bene. Che comunque è un buon tiro. Ha fatto critico. E io ho finito gli interventi. 24. Tanto ti ho già fatto vedere prima che ti fa un di 8 danni, sì. Più 5, così non è un cazzo. Ti aumenta di 1 il counter. Perfetto. Ha fatto un min damage di nuovo. Non è la giornata così? Di Devin. No! Non è la vita di Devin. E prendo un altro mana penny. Non posso usare le magie naturali, ma queste non sono magie naturali. Casta Hasten su se stesso. Ok. Quindi ora 3 buff a T. E fine del suo turno. Tocca o a te o alla Mucelos, chi preferisci che si muova prima. No, fai che faccia prima la Mucelos. Ok. Devo vedere cosa fa lei. La Mucelos guarda Nibel. Non dico dall'alto in basso, ma circa. Hai visto? Io ho un angelo custode, non potete farmi nulla finché lui è qua. Con un gesto del piede tira su la mana unit e dice: che ne dici, Nibel? Facciamo un'altra cosa divertente. E spacca la mana unit. Questa è una cosa che è fisicamente impossibile per il vostro knowledge. fa la roba di Dragon Ball che la sua voce fa eco. Colasiton Meiklon. E me la potevo preparare meglio sta cosa, non l'ho fatto, lo facciamo adesso. Crea un buco nel terreno e dal buco nel terreno aspettate, emerge un gigantesco colosso fatto di funghi che è grande come il buco. Ora appena il momento lo riempio e finisce il turno della Mukelos. Tocca a Meskenos. Allora, io adesso ce l'ho 8 il contatore, giusto? Sì, non 7. Sì. E tutti lontani. Meskenos fa questo gesto con le braccia e casta Meskenos Solitude. Perfetto. È una reazione, quindi l'hai fatta tecnicamente durante il turno di Devi, non di Nibel. È vero. Bomba. Allora, c'avevo più 2 di movimento da prima, adesso sì. Ne ho altri 2 castando questa sì. Spell, quindi c'ho un totale di 8 di movimento, giusto? Sì. Ok. Domanda, 8.1 o 7.6? No, 7.6. Cioè, ok, perfetto. Va benissimo. Ok. Che ci piacciono gli slip. Allora, magie. Posso fare un sacco di cose. Saint Fire è una magia? No. No, è una azione base. Ok. Cioè, è un attacco. Nibel, vedi la mano sinistra di Adone che ti punta, la sua fede che si illumina, e casto Saint Fire su Nibel. È un attacco, però lì è un di 10 più 11. Pronti. Quanto hai di evasione con tutti i bonus? 14. E quindi ti ditta. Allora, ti fa un di 6 danni, prego. Okay. Max damage. E l'altra cosa è che ti fa burn. Difficoltà 19, devi resistere. Nove più 3. Niente, prendi Divine Burn che dice... Ah, ripeti il test ogni turno. Sì. Ok. E mi segno di ogni suo turno, vero? Sì, sì, non sì, il mio. No. E 19 meno 1, quindi è già a 18. Ok. Gli faccio di nuovo Faint Fire. Perché lo posso rifare. Sì, il malus non stacca. Sì, sì. Lo riattacco e basta. Ok, di 10 più 11. Un altro di 6 danni. Ok. 4. Sì. E di altre magie non ne ho che voglio usare. Facciamo che... Aspetta. No, non mi conta come vicino Nibel, vero? No. Hai finito l'azione. Ok, allora comunque. E posso recuperare vita? Con cosa? Di 4. Ah, sì, per la tua passiva. Sì, sì, sì, vai, vai. Posso, ok. 4. Wow. C'hai un limite al quale puoi recuperare vita, ovviamente. Ok. Quindi se fra un po' non mi si applicherà questa roba. Benissimo. L'unica cosa che succede è che Devin ti urla, Mibel, avvicinati che ti curo! Okay. E cambiamo scena. Iniziate voi. Prego, Lirka. Deduco che non avete discusso fra di voi sul da farsi. L'avevamo discusso prima, poi a quanto pare... Opinioni divergenti. Mefted. Mi devo spostare qua. Fa di più un pium, I guess. Ok. Tra l'altro, just for... heaven's sake, se non mi ricordo male, prima ho mancato il libro con un 8 dado. Mi ricordo male. Può essere, non sì, ho mancato con un 8, quindi... Ed è sceso. No, perché è il... Cioè, è sceso l'evasione. Sì, scende. Scende quella del libro. Anche dell'oggetto. Sì, ok, è scesa quella del libro. Se vuoi ci posso riprovare. Prova. Andiamo. No. Totale? 6 e 4, 10 e... 2, 12. Miss, segnati le cariche, l'esperienza e un'altra azione. Sì, vai, uguale, cazzo se ne frega. Posso ricaricare, no? Ma volte, no, non c'è senso farlo adesso. Sarebbe una... Dai. Questa è una. Ma sì, Thunder Call su di lui, ma che cazzo se ne frega. Thunder Call è nel punto in cui è. Sì. Cioè, spero, stai assumendo che non si muova. No, aspetta. Thunder Call, tra l'altro, posso castarlo un po' dove mi pare. Però c'è la dicitura di... aumenta di... Ok, quindi posso farlo dall'altro lato della mappa volendo Thunder Call. Probabilmente sì. Prezzo. Sì. Sì, e lo sto castrando di fronte a Limp vivo. Ma faccio un mark per ricordarcelo. Yes. Ah, il 4 che hai scritto era la durata della barriera? Sì, è sceso a 3. No, non è 4. Non è della barriera, è la durata dell'area. No, non era 5 per to begin with, era 20 to begin with. Sì. Perché è 5 per S. Turni. Wow. E ho segnato 19, che è quello di prima. È un 18 adesso. No, è raggio 5, dura S turni. Ah, ok. Sì, avevo contato bene. Ok. Porca troia, 20 ho detto. Sì, infatti, anche mi sembrava troppo. Nice. 5 per S turni. No, forse. No. Sì. E tra l'altro, questa mi sono appena inculato. Cioè. Se lui non supera il test, missile non si muove. Esatto. È finito il tuo turno? Perché ho delle buone notizie. Finito il turno. Bene, Mif. Oddio. Puoi ricaricare se vuoi usare. Mi sa che non è finito. Ah, è finito. Sì. Sì. Due di quattro. C'ho uno e ritiro. Ok, io posso comunicare ad Aidos e Lieto quello sì, che sì, ho puoi notato. Dire come vuoi. Ok, perfetto. Mif mi parla e fa. Malus sembra che li fagociti e non rimangono, quindi gran parte delle mie spell sono fuori uso. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. C'hai destroy, mi pare di capire. Sì, non ho range, devo entrargli in bocca, ok? Destroy è al tocco, destroy? Destroy ho 4 di range. Ok, praticamente è... Ok. Cioè, quindi non riesco chiaramente ad avvicinarmi abbastanza. Neanche se voglio, oltretutto. Cioè, perché, sì, non ce la faccio. Mamma, ci sta. Non è così difficile da superare il test, in realtà. Non ho abbastanza di resistere, cioè ho più 5. La difficoltà è 9. La difficoltà è 9. Devi fare 4. Vabbè, dai. 4 comunque più. Non ci arrivo. No, dico, se comunque vuoi iniziare a muoverti per entrare nella zona, non è così alta. Poi ovviamente okay. Tu fai solo uno da qua alla fine della barriera, però questo... E allora faccio tutto un movimento... Oh mio Dio, datemi un altro. E ha la dimensione per le spell. Sì, era Delusion Kingdom, in caso. Oh, Delusion Kingdom, la... devi caricarla per 10 turni per poterla usare. Non c'è. Dopo me la leggo. È un minuto di cast. Oh mio Dio. Este, non lo posso dare a qualcun altro? Perché nella descrizione non c'è scritto. Devin c'ha la variante che gli permette di farlo. Ok, infatti, perché ho sentito Devin che... Quanto range ha Thundercall? No. Non credo. Cioè, quanta aria ha? Botto. È una cella Thundercall. Ah, no, aria di d'effetto. Una cella. Che si trovano entro una cella dalla zona, quindi... Entro una cella dalla zona, intendi alla D&D, cioè c'ha tutte quelle intorno? Nella cella centrale la difficoltà è aumentata di 5, in quella intorno... Però i danni riprendono uguale. Sì. Posso. Allora, ho fatto tutto il mio turno e mi sono più o meno messa accanto a Lieta. Perfetto. Tocca ad Eidos, che dice... Che devo fa? Un altro imp, grazie, è quello di prima morto. Ah, se vero, gli placano l'ira, se ammazza sì, esatto. Placa l'ira, quindi ci servono le trovargli cose da Eidos distruggere. È uno stratega migliore di altri e quindi lo mette lì, l'imp. Grande Eidos. Ho due roll per quelli nella cosa... Per assurdo questo si può muovere, ma lo lascio fermo. Giusto? Sì. Perfetto. Tocca no, aspetta, laga. Dico, stai parlando? Questo imp qua si è liberato dal... Cioè, è immune all'effetto dell'Aga Anomaly. Però, se lo muovo... Sì. No. L'agnello sacrificale. L'agnello sacrificale. Tocca a... Laga. Laga fallisce il test. E si incazza così tanto... Che fa la roba di Super Boo. Ah, ok, bello. E brucia... Quanto costa? 5 di mana? 5 di mana il The Void, sì. Brucia 15 di mana per incenerire l'anomalia temporale. Cioè, vedi proprio che va a fuoco e tu sei tipo... È un'ottima maniera per togliergli 5 di mana. 15. Quella non è una cosa che può bruciare, era... E sta bruciando. Ha dato fuoco a un concetto. Sì, non è normale questa cosa. Come avevi previsto, fa due passi in avanti e tira due pugni all'imp davanti a lui. Entrano entrambi e si scarica completamente, cioè rimane Laga normale con i suoi stupidi vestiti, il suo stupido libro ed è leggermente più calmo, sembra. Il Limp prende 10 danni. Devo rollare la vita del Limp, scusate, mi ero dimenticato. Ora appena ho un secondo li rollo tutti, così poi ce li ho. 5 di 4 più 3. Di 3 di vita massima. A 13 è rimasto a 3 di vita. E Laga finisce il suo turno, perché in realtà ha usato un'azione per incenerire la cosa temporale, un'azione per muoversi e due azioni per attaccare. Fa 4 azioni per turno. E tocca all'altro lato, quindi a Nibel. Intanto io mi rollo la vita degli imp. Io guardo in direzione di Devin e dico: mi spiace ragazzo. E corro qua dietro la Mucelos. La voglio afferrare tipo per il collo e per il busto, okay. Ed entrare dentro le radici. Buttarti nel buco? No. Le radici qua che fanno da parete dell'arena. Rolla per farlo è sollevare, quindi in realtà è più per la mia soddisfazione vedere che numero fai. Sì, cos'è più 6? No. Due cazzo, più 9. 12 pure poco. Sì, è pure poco, ma è sufficiente. L'afferri ed effettivamente riesce a entrare nelle radici. siete entrambi immobilizzati. Questa è la cosa tecnica. Sì. Lei è sorpresa da questa cosa. E la tengo per il collo e per il busto e stringo più forte che posso. Ok. Non credo. Vabbè, ho usato sprinter come al solito come azione extra. E non credo di poter fare altro anche qua. Perché non posso usare magia naturale, quindi. Puoi tirarlo un pugno. Sì, poi tiro. Posso tirare un calcio in realtà con. Sì, sì. Con la ginocchiata nei reni. Violenza contro gli anziani. Contro le donne, contro gli anziani. Lavoro. Prego. È fair enough, sono vecchi entrambi. Lei di più. Lei un poco di più. Sì, ma quei 25 non anni. Non li dimostra. Ho fatto uno. Bastava il primo. Sì. No, quello di prima era per afferrare, quello il secondo era il calcio. Ok. Ha 11 di evasione, quindi entra, puoi tirare i danni. Otto danni contundenti. Perfetto. Devin? No, deve rollare i danni del fuoco. Giusto, sì, giusto. Rolla. Un di 10 per evitare prima, perché se eviti... Infatti. Resistenza? Sì. Cioè, se per resistere? Sì, okay. Devi fare 18, quindi non credo... No. Ho fatto 9. Uno, porco Dio. Vabbè. Devin, che non ne può già più, sono passati 4 turni, ne mancavano 6. Si strappa un guanto e rivela, se lo strappa proprio. Ora ha l'anello che gli tocca la mano. Quell'anello. E dice, nel caso sono pronto al piano B. Perché devo essere sempre in compagnia di idioti? E corre verso Nibel. Ho Haste attivo. Scusami. Corre verso Nibel. Quanto cazzo c'ha totale? Scusami un attimo, il numero mi baffla. 9-9-18. Momento Adone! Sì. Arrivi quasi a Nibel con uno scatto su. Sì, fa un salto per evitare la roba. E arriva lì tra la Mukelos e Nibel. E in realtà ha finito il turno. Per estetica si mette con la pistola verso Meskenos e dice stai lontano! Kevin! Scusami. Dicevamo Meskenos. Nibel non puoi fisicamente attaccarlo senza trafiggere la Mukelos in questo momento. Io sì, però. Tu dico, non puoi fisicamente attaccarlo senza bucare la signora. Io? Sì, perché... Ma che Nibel lancio ha... i tuoni le robe? Ma lui ha lei... Capito com'è messo? They're one... Sì, cioè... one thing. Non credo tu abbia abilità molto precise. Posso attraversare i muri, quindi io posso entrare dentro e tenerla ferma. Se te la vuoi rischiare di sparare alla Mukelos, vuoi. No. Dai, Devil, facciamo una piccola Goku contro Raditz. Mio povero. Se vuoi faccio il Giga Golem. Prima. Sì. Giga Golem, che come avrai intuito è grande e grosso e abilinà, termine tecnico. È la tag del kill proprio, abilinà. Sì, sì, sì. Il Giga Golem non credo si muova. Non c'è lo spazio. Ha Colossal Step. È troppo lontano per fare un'azione vera, quindi la sua azione è muoversi in questa direzione. Finirà di muoversi all'inizio del suo prossimo turno. E ve lo segnalo così, con un rettangolo, della posizione in cui arriverà. E l'idea è che se ci arriva fa danno a tutto ciò che gli sta vicino. Compresi quegli gli altri tre lì in fondo. Tutto. Si sposta lì? Ok, sì, perfetto. Può spaccare i muri, può fare quello che vuole, è un golem. Va benissimo, porca madonna. Immagino, ma è quel golem? No, che golem? No. Il golem contro della primissima missione di Zanzan. È simile, ma no. Quello era un golem alchemico, questo è un golem fatto di funghi. L'idea è la stessa. Le statistiche sono le stesse. Zanzan lo aveva preso a pugni, mi pare. Eh sì, non credo gli avesse fatto particolarmente male. Da qualche parte c'ho la miniatura. Ma quanto sono elegante a muovermi. Sì, ti sei alzato come un leggiadro elfo. Sì, ce l'ho qua, aspetta. Devo liberarlo dalla cam jar. Tanto che Sirio decide cosa fare. Sì, per allora... perdere tutti gli amici che ha. Sto scherzando, pure, Sirio. Grazie. Prego. No, perché consideri Austin un tuo amico? Hai detto tutto. Hai detto tu, hai detto tu. Allora... Austin lo pensava già, però. Esatto. No, dai, basta. Allora, dottor Bianchi. Sì. Io uso un'azione extra per ridurre di uno. Ah, ma è lui! E lui lo conosco. Con me. Per ridurre di uno? Per ridurre di uno il contatore. Un pazzo! Yeah. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto il movimento. Ho fatto un'azione extra. Ho un'azione base. E basta. Ok. Non posso immobilizzare solo Nibel e Devin, vero? Con cosa? Con Time Anomaly? Con, no, Time Anomaly, perfetto. Ok, ho un'azione base. Andiamo di Saint Fire. Su? Su Nibel. Nibel non puoi hitarlo. Per il solito principio, so. Diciamo, okay. Cioè, a meno che tu non voglia rischiare di prendere la mucca, se in quel caso puoi. Quanto mi sa bene la Mucelos rispetto a Nibel? Nibel è messo peggio. Cioè, vedi che Nibel sta proprio arrancando. La Mucelos è ferita, ma non mortalmente per ora. Per ora. Ah, by the way, la Mucelos spende il turno cercando di divincolarsi. Sì, immaginavo. Cosa? No, sì, Meskinos prova a colpire Nibel, nonostante tutto. Col tira. Tira ne due. Sì. C'ho degli interventi? No. La notizia buona è che hai preso Nibel. La notizia cattiva è che hai preso pure la Mucelos. Immaginavo. E eravamo qua per salvare una persona. Tiro 2 di 6. Ma come ha fatto a prendermi? 18. Ah, 18, ok, scusa. Sì, sì. Buca... sì. Sì, sì, sì. Vai. 2 di 6. Ma perché ha vantaggio, scusa? No, uno era per colpire te, uno era per colpire lei. Ha colpito entrambi. Yes. Ah, ok, ho capito come funziona. Il primo è su di te. Yes. Il secondo è su di lei. Tu sei già burned, quindi non ti può burnare di nuovo. Lei, adesso vediamo. La Mucelos è burned. Devo rollare i danni per entrambi? 2 di 6? No. No. All'inizio del loro prossimo turno entrambi prendono il burn. Va bene. Ho finito, sì, le cose che posso fare, direi. Andiamo all'altra scena. Perfetto. Ciao piccoli rompiscatole. Che agisce per primo. Provo a fare io, fai tu. Vai. Non vuoi. Basta che non gli stai vicino che sta per cadere. alla fine il, del mio quello... il fulmine. Allora, casto destroy. Se aspetta, posso. Se fai immediatamente il turno lieto, cade il fulmine. Sì, esatto, cioè... come volete. Vuoi che cada il fulmine? Alla fine del mio turno cade il fulmine. E va, faccio io, allora. Sì, dai, fai tu, vediamo cosa succede. E ah, ho una domanda tecnica. Il fulmine l'ho castato prima e c'avevo 4 di speciale. Sì. Se attivo il rosario adesso, c'ho 5. Il fulmine però cade alla fine di questa attivazione. C'ha 5. Sì. Allora, è nel momento in cui scende. Allora. Min-maxing. Facciamo anche questo, vabbè. E... ma dai, spago di nuovo al libro. Va bene, va bene. Sono vai, convinto. Comincia a diventare fattibile. Dovrebbe averlo colpito. 14, l'avevo fatto? Sì. Dovevi fare 13, hai ittato il libro. Non ti faccio rollare i danni. Quello che succede è che colpisci, buchi da parte a parte il libro, però è una roba di energia, quindi oltre a bucarlo, lo scaraventi un pochino più in là e cade tipo qui. Cioè, in direzione okay. opposta. Sì, bello. Lo... però è, cioè, è ancora intero, non gli è successo nient'altro. Fa un buco. Ha un buco. Onesto. E ho fatto un'azione base, un'azione speciale, mi rimane un'azione di movimento, ma mi sa che mi ha fiuso per il culo e quindi passo il turno e gli cade il fulmine in fulmine, testa. Rolliamo i danni per il... cioè, rollo per evitare. Rollo per evitare... non che... credo proprio lo eviterà. No, penso neanche io. Non lo evita. No, ma col cazzo. Rollo anche l'imp, che mi sa che non lo regge. E l'imp c'ha... 5 in meno? No, ma è non basta. Poco. Mi rolli poco. I danni. Sono 5 di 8. Sto. Bello. Oh, sì. 5 di 8. Sì. Sì. Sì. Dai, hai, manifesting. Hai più 1? Sì, sì, 5 perché hai più 1. Ok, ok, vai. Sì, sì, sì, 5 perché hai più 1. Papi, a te. 31 danni. Papia. Rollo quelli del limp per i miei, per il mio amazement. 19 danni. L'imp è tipo... lo odio molto di meno. A distanza 6 da lui? E... 2,8? Sì, quella. C'ho un'azione di movimento, detto io. È vero, non... potevi allontanarti. Potevi andare verso il libro. No, ma... quanto l'hai pagata al fulmine? Quanto ho pagato il fulmine? Tanto che costa 3. Brucia 9 di mana e cancella il fulmine. E... bello. Quindi... sì. Però non prenderanno neanche che... l'imp. Esatto. Wait, neanche... si è appena ricaricato il mana? Di nuovo? No, avevo sbagliato a premere e l'ho rimesso al numero a cui era. Ho sbagliato a premere, invece di togliere 9 l'ho messo a 9. Ah, e poi ho rimesso il valore che doveva essere. Ok. Quindi questi sono 9 più 15 più non so quanto ha speso prima di mana. Un po' di mana. Mi sono scordato di una cosa. Cosa? Io c'ho il fuoco passivo. Sei il cuore in fiamme. La Mucchelos prende 3 di 6 danni, prego. Ma anche gli altri due? Sì, loro prendono un di 6 danni perché sono più lontani. Come? Sì. No, aspetta, però c'è specificato ai nemici. Ok, prendono un di 6 danni e non possono evitarli. Rolla un D6 per Devin, un D6 per Nibel. Quindi rollo 2 D6? Sì. Il primo è per Nibel. Sì. Il secondo è per Devin. Devin sta soffrendo come un cane, poverino. Godo. Non se lo merita. Non se lo merita per niente. Si merita di soffrire sotto le coperte. Tocca a Mif. Vero? Tocca a Mif. Sì. Sì, Cattare cose non ha senso, quindi bisogna prenderlo a pugni. Prima di tutto. Secondo, distruggiamo questo cazzo di libro. Quindi mi tipo tecnicamente così è abbastanza. Dammi un attimo che devo calcolare. No, devo muovere di più. Allora, ero qua. A culo, ok. Ci dovremmo essere. Sì. Casto destroy sul libro. Ho maestria stregoneria 3. Lo faccio a costo 5 piuttosto che 4, faccio danni sacri. Se faccio danni sacri, guadagni una destroy stack. Annulla cosa, no? Sì, ma non lo so, l'ho scritto io sto manuale. L'hai scritto tu? Quando infliggi danni sacri con questa magia, rimuovi tutti gli effetti del bersaglio e ottieni una carica di vuoto per ogni effetto rimosso. Se ha degli effetti magici, sto coso, tecnicamente sono tolti. Il libro viene polverizzato e tu ottieni una carica di vuoto. Una, perfetto. Ottimo. La scrivo. Perché hai un'azione extra, credo. Ho un'azione extra. Cosa posso fare con un'azione extra? Mi devo segnare io la cosa. Ottima domanda, cosa ci puoi fare con un'azione extra? Buster, cosa posso fare con un'azione extra? Non lo so, se skill, puoi passare il turno. Sì, non posso aumentarvi l'evasione con un'azione extra, se vero? Se già al massimo, no. Ok. No, e allora no. Devo andare in bagno, ragazzi. Vai, vai. Un'azione extra. Faccio rapidamente. Esatto, la mia. Cioè, cosa volete che faccia da Eidos, rapidamente? Eidos dovrebbe aver finito la... La cosa, la barriera, sì, è vero, la barriera ora è fatta di dita di ferro. E... Un filo di botte a pugni, Eidos, grazie. Esatto. Cioè, deve essere circondato per tenergli l'ira più bassa possibile. Passo, se gli vuoi tirare qualche pugno, non siamo chizzinosi esatto. Noi su quello che succede. Quello lo so fare. Ma di bagno. Sono triste perché il danno più alto in assoluto della campagna fino adesso è stato annullato. Hai un altro turno e questo non si muove. Allora, Eidos si muove di 4. E può fare Dark Disappear. No, non è quello che trasporta. Tanto non c'è Sara, quindi posso mettermi a leggere le mie skill. Sì, è Dark Disappear, lo posso fare solo durante il turno dei nemici. Che stronzata. Andrà cambiata sta cosa. E... non ha senso. Quindi niente, spende tutto il turno per arrivare fin qua. Questo imp si sposta qua. Questo imp si sposta qua. Questo imp era l'imp. Sì. Per spostarsi qua. Ho due imp che non hanno corso, quindi possono attaccare 10 volte. Sette entrano, prende 7 danni. Bello, è uscito 60 preciso, mi piace. E sì. E l'evasione scende di 3. Ho finito il turno di tutte le cose, toccherebbe a lui. Aspetto Sara o vi dico cosa fa, perché semmai glielo ripeti. Sì, vai. Ridiventa Super Saiyan. Immaginavo quello. Tipo... Sì, solo che stavolta... dov'è? Perché questa è un'abilità. Nicia. Ma non è Nicio, è Tom. Tom. Niente, Permanent Rage. Urla. Come? Dov'è Sara? Sara. Eccoci. Aido, ciao. Laga urla. Il libro! E viene avvolto dalle fiamme. In che senso è a 5 questo stronzo? Sì, fine del suo turno. È incazzato. Fine del suo turno, per me, mi piace. Andiamo di là. Shift, rotellina. Andiamo faccio di là. Prima Devin o faccio prima te? Tiro per resistere, non resisto, sono 9. Resistere a cosa questo? Al fuoco, qua. No? Era inizio turno. E se puoi fare il turno a tu, sì. Sì, hai il turno di io. Vita. Se fa max roll ti uccide. Lo so, vai. Crollo? Fa prima Devin, forse? E fai dare prima David. Ok. No, no, è Devin che ti suggerisce questa cosa. Devin casta regenerate. Regenerate. Non devo rollare niente. Recuperi 12 di vita. Ok. E cazzo. L'altra cosa che succede è che ti rimuove un malus, quindi puoi riusare la magia naturale. E okay. Questa è la prima azione di Devin. La sua seconda azione, preferisci che ti casti Hasten o che spari a qualcuno? Preferisco che si allontani dall'area del grosso coso. Devin esegue. Fine del turno di Devin, tocca a te. Devi resistere ora. Sì, ho fatto 9. Quindi prendi un di 6 danni. Birio, rollali. 4. Prendi 4 danni, non saresti morto, però chi poteva saperlo? Cioè, solo Dio sa. Comincia 6 di vita. Just saying. Devin? Sì. Ci pensiamo a lui fra poco. Io voglio usare la mia azione. Dico alla. Alla Mucelos. Vediamo come ci sente ad essere schiacciata dalla tua stessa creazione. E tipo la tengo stretta e la voglio azzannare al collo. Wow, bello. Vai, tira. Cateo! Conta come senza armi. È un attacco senza armi, sì, sì, sì. Ok. 18. Entra, tira i danni. E... la carne che gli strappo dal collo, la ingerisco e uso Gaia Horus. Perfetto. Paghi comunque la fatica. Sì. E recuperi 4 di vita. Cioè, 4... no, c'è overpower. Quindi è 6. Sì, 6 più consumando della carne. Posso scegliere anche me stesso come bersaglio? Puoi scegliere anche te stesso. Okay, anche perché Devin è T.1 troppo distante per poterlo curare. Quindi se vuoi lo metto qua. Ce l'aveva la se vuoi. Sì, sì, sì, lo faccio. Allora. Curo di. Io recupero 6. E Devin recupera roll 1 di 8 sì. più 4 3 più 4, 7. Arva da un lato che forse o è proud o è come il Gilgamesh che ti dice faker. Vabbè. No, è proud. È proud, perfetto. E poi azione gli tiro un calcio nei reni di nuovo. Fai. Che bella questa campagna, picchiamo vecchiette e mangiamo carne di umano. Welcome back, Vera! Ho fatto 13. Entra, tira i danni. Di seguito. Io ti sto facendo rollare per educazione, a meno evasione del minimo che puoi fare. Per educazione. Ho fatto però 8 danni di impatto. Vai. L'azione extra l'ho già usata, quindi non posso usare sprinter tecnicamente. Non puoi. Ok. Allora. Sirio. Vuoi che vada prima la Mucelos o prima te? Se va la Mucelos attacca anche il golem. Sto riflettendo. Io credo che l'unico modo che ho per aiutare o salvare la Mucelos è prenderla e strapparla via da... Ok. Bella. Mi confermi perché non ho nessun'altra azione che può curarla o può difenderla. Puoi castare Absolute Order sul golem. Però sì, non ha molto posso senso. Posso scegliere, posso castare Absolute Order e bloccare i tre coglioni, ovviamente. Il golem, Nibel e... Devin è ancora Devin. Affetto dalla roba. Perfetto. Quindi non puoi ricastarla su Devin. Su Nibel sì. Ok, però su Nibel sì. domanda. Posso castare Absolute Order come azione, impedirgli di tipo muovere le braccia e prendere via la Mucheros? Sì. Ok. Però vuol dire che scegli la stessa azione per tutti e tre. Cioè, per lui... Sarebbe per quella di non usare le braccia? Sì. Ok. Scusa, okay. Non lo posso tra l'altro ricastare comunque su Devin, giusto? Devin no, sarà ancora attivo. Ok, allora facciamo così. Cast Absolute Order. Impedisco a Nibel di usare le braccia come azione e gli locco sempre la magia naturale. Sì. Dopodiché, e questa è un'azione, è un, cioè un'azione extra come down? No, un'azione base. Un'azione base, ok. Allora non potrei tirarla via la Mucheros. E devi fare un'altra azione base e poi un'azione extra. Cioè, okay. Sì, non puoi... La puoi tirare via, ma poi non ti puoi muovere. E non puoi fare nient'altro. Però poi, però non sono nell'area, effettivamente, del, no, dell'attacco. Ok, allora... Absolute Order, e poi con le mie lunghe mani vado e prendo e tiro la Mucheros a me. Nibel, test per vedere se sei più forte di lui. Ok, cosa devo fare? Sempre sollevare. Più, no, scusa, sopportazione, perché le tue braccia immobili che sopportano il pool. 8. No, più da una cosa. Sai delle robe da rerollare, è un buon modo, un momento per usarle. Sì, l'ho visto anch'io. Cosa? Posso usare solo Obolo della Vanità, mi sa. Va benissimo, è la tua energia, quindi non è loccata. Scegli una moneta da bruciare e rerolla se vuoi. Ho solo quelle di Apeira, perché le altre tecnicamente le ho date al dietro. Ah, ok. Sì, effettivamente devo segnarmi... Porco di... Che sfiga. Che sfiga. Non era destino. Riesce a spostare... Meskenos, riesce a spostare via la Mucheros. Ok. Hai finito il tuo turno. Aspetta, ho ancora un'azione extra? Sì. La uso per abbassare il mio contatore. Brutta sensazione. E tocca la Mucheros. Il colosso entra nella sua area. Nibel, devi... Non so cosa devi fare, sinceramente. Aspetta, devi anche prendere il danno del fuoco, Nibel. Sì, sì. L'ho già preso. Ah sì, questo era il tuo di turno. Era il tuo turno. Avevo preso 4 di danno, era l'inizio. Okay. Perché l'aveva già preso. Perché Adrian Burn, non perché c'è la Wicked Heart, vero? Ah, quello dell'AOE dici? Esatto. Ah, sì, ok, sì, quello non vi sei, lo rolli te, sì, io direttamente non puoi evitarlo, quello. Ok. Fatto 2. Però c'hai 42 artefatti del cazzo. Sei insopportabile. E... dicevo, il... L'hai già tolto tu? Sì. Gli ho rollato. Dal token. Sì, sì, sì. Perché lo fai troppo in fretta, non riesco a farlo in tempo. Ok, devi evitare con difficoltà 20, tantissimi auguri. Lato positivo è che c'hai resistenza al tipo di danno che ti fa se... Prego, ne tiri un altro. 18. Peccato. Sì, se hai danno da impatto posso usare Iron Body. Sì, ti fa 2 di 8 danni. Fa 10 danni. Ok, se allora... Sì, lo riduco della metà. È il mio utilizzo unico, sì, di questa... Prendo 5 danni, te l'ho segnati. Grazie. È il turno del golem, come dicevo. E la sua azione è di tirare un pugno per terra, quindi colpire l'area su cui si trova. Non è effetto anche lui dell'azione braccio, per non posarle? E non l'ha tirata alla fine sul golem, può scegliere su chi tirarle. Ah, ok, pensavo fosse away in generale. Anch'io, invece c'è scritto che può scegliere chi vuole. e mira al terreno e sta alzando le braccia per colpirlo. Questa è la fine del suo turno. La Mucelos, molto saggiamente, ha raccolto la sua borsa e se ne va. Quella sta la sua azione di movimento. Poi punta verso... verso l'area nera, e il terreno dove c'era il buco viene coperto. Non avete idea di cosa voglia dire questa cosa, non sembra nulla di positivo. Eh sì, sono d'accordo. Per nessuna delle persone coinvolte. Infatti. Hello? E fine del suo turno. Andiamo dall'altro lato. Salve ragazzi, tocca a voi. Ah, proprio a noi. E... vuoi andare tu? Non ti sento. Sarebbe meglio che lo abbassassi prima. Perché non ti sentiamo? Sarebbe meglio che lo abbassassi prima. Sì, sì, ma perché lo abbassassi prima? Merda. Perché sta sussurrando. Prova ad alzare il volume, anche, magari anche secondo me stava parlando. No, stava parlando bassa lei di, okay, di scelta. Ho esaurito i miei minuti di tempo. E vabbè, ha dispellato la qualunque, quindi gli sparo. Giusto. Devi ricaricare, l'hai già fatto? C'è ancora. Gli ho sparato una volta, c'ho 5 cariche, ce l'hai, sì. Ok. No, prendi il più alto dei 2 di 4, non prendi la somma dei 2 di 4. Ah, è vero, no, 2 di 6. È diventato 2 di 4 da quando l'ha boostato la... No, non tira 1, tira 2 di 6 quando ricarichi e prendi quello più alto dei 2. È uscito un 6 prima, mi pare. Hai... o no? E non l'ho aggiornato, è 2 di 4, devi guardare quello okay in alto. Ah, non l'avevo cambiato. Ah, ok, c'era scritto in alto. Ok, ok, ok. Allora sarebbe. Mi sa che era. Vabbè, sarebbe a 3 poi. Sì, sì, sì. E niente, rollo per colpire. Vai. Dovrebbe entrare perché ho 9, quindi vai. Tira i danni. Sì. Tira i danni, sono 2 di 8. Che schifo. Sì, lo ferisci di strisci. Sì, no, ma col cazzo vi faccio tutto il turno. Addirittura? Sì. Cazzo. Mi aggiungo 1 di fatica. Ok. Rirollo per colpire. Rirollo per colpire. Rirollo per colpire. Peccato sprecarli così, eh. Vero? Ok, è 23. Più qualcos'altro. Meglio, sette. Meglio, sette. Ok. Sono da oscurità, sti serve il tipo, mi pare. Guarda, basta che non siano da fuoco. Non sono da fuoco. Se lo attaccate con sì, danni da fuoco, siete dei deficienti. Secondo te perché non gli è ancora arrivata una palla di fuoco nei denti, sì, a questo? Cioè, tipo, sta un attimo lì. Sara? Ok, vista che prendo il mio Pride e sì, sì, mi faccio l'azione extra per prendere una fatica, ho 4 DS e glielo butto con danni addosso. Sacri, immagino. Con danni sacri, sì, per forza. No, dato spesi ho sbagliato, arrivo. E adesso dovrò andare per colpirlo perché fa un effetto ad aria. Puoi scegliere solo lui. Ok, però devo rodare per colpirlo, sono danni sì, automatici. Sì, colpisci, cioè, colpisci, attacchi ogni personaggio nell'area che vuoi attaccare. Ok, attacco solo lui. Sì. Che fatica. Quanto di precisione? Non lo so. Fammi vedere. Ho più 4 in dialettica. Non credo conti. No. Perché non ho. Non ho maestria con l'arma. Ha più 4 a precisione, hai fatto 5. Lo missi, gli scende di 1 l'evasione. Ok. Il lobo non resta lì, però. Tecnicamente. Cioè, Raider resta lì, tecnicamente. Si ritorna a te. Fa il raggio e poi ti torna. Ok, va bene. E mi allontano di uno, per sicurezza. Ok. Aidos cosa deve fare? Gonfiarlo di botte come prima. Menarlo. Facendo all'imp davanti di attaccarlo e poi muoversi. L'imp davanti, cioè attacco tutti gli imp. Sono 20, 5 per 4. Sì. Che cazzo di attacchi fanno a turno gli imp? 5. Spiego da un danno l'uno. Fanno un danno l'uno. Ok. Però shreddano l'evasione che è una meraviglia. Non ho mai visto una roba più bella di questa. 16 danni totali. Questo si sposta e fa spazio a Aidos che gli tira un pugno. Credo ci abbia più 20 al pugno Aidos. Minchia. Una cosa del genere. Se gli hanno appena finito di scendere l'evasione, peraltro. Sì, è completamente inutile. Sì, sì, sì. Cioè... Più 20 tondo. Sì, lo tiro per più il divertimento mio. 21. Entra. Fa gli stessi danni dell'imp. Laga su questo danno fa la reazione. Aspetta. No, non posso, non c'ho il libro. Niente, prende un altro danno. Tocca a lui. Come azione base una fiamma gli compare sulla mano e il libro gli ricompare in mano. Come seconda azione casta Berserk, a meno che tu non voglia cancellarla. Sì, perché so cosa fa. Ok. Roll. Ok. Sì, gli tolgo la fatica. Comunque, e ho sprecato due azioni con questa roba qua, quindi tira due pugni ad Aidos. E il primo pugno è di fuoco e fa un di 4 più 4 danni, gli fa 6 danni. Ma la cosa peggiore è che vedete le ferite del coso di Laga rigenerarsi. No, no. Aspettate che devo vedere di quanto. Ah, di un bel po'. Beh, non tantissimo, però un po'. E il secondo è un pugno normale e lo missa, quindi in realtà va a 4. E le fiamme che lo avvolgevano si calmano, cioè rimane il suo corpo normale. Non so se avete raccolto informazioni, io farei un paio di turni e se finite il combat bene, se no la prossima volta, cioè martedì continuiamo, perché sta diventando tardino. Giusto? Tutti d'accordo? Oh, sì. Sì, sì, sì. No, però accetterò. Volevi andare avanti a oltranza? Ti giuro, cioè, sì, sono casatissimo. Domani è no, sabato, ovviamente quindi... è troppo tardi, è troppo tardi. No, è tardi per te, dicevi, Sara, o vuoi andare avanti? Per parlare. Io posso combattere, cioè... Per me, se volete andare avanti, andiamo avanti. Vogliamo andare avanti? Cioè, sì, dipende da Ika, insomma. Non lo so, non so se una certa deve andare a prendere Alice. È tutto. Facci lì. Sapere. Sì, per ora continuiamo. Sì, sì, sì, vai, vai. Direi che tocca a Nibel o Devin. A te la scelta. Se vuoi andare prima te o se vuoi far andare prima. Il blocco alle braccia è terminato, no? C'ho solo quello alla magia naturale. Sì. Se tocca a Devin può rimuovertelo. Sì, sì, no, infatti sto dicendo... Libero. Ragazzo... Mi posso come Fox. Ragazzo, ho bisogno di una mano. Arrivo. O mi rendi più veloce... O mi rilevi questo blocco. Perché non entrambi? E casta entrambi. Aveva... Hasten lui dal turno prima. Devin non ha più mana. ho ancora tre spell. Ah no, regenerate costa poco. Ok. Ti recupera un D6 più 9 per 12. Ok, un okay. botto. Vai a 29. E ti casta Hasten. Quindi hai un'azione in più, hai più 5 velocità di movimento e più 2 evasione. Ok. Allora, ti guarda io farei... e ti dice, io sono scoperto ora. Sì. Io uso... Ho un'azione in più, un'azione base. Sì. Ok. Uso la mia azione base per fare un attacco contro il golem, che è fatto di funghi. Sì. Mi confermi questa cosa? Ok, la mozzico sì. allora pure lui. Bello, ci sta, sì. Di 10 più 11 14. Credo che il golem abbia tipo 0 di evasione. No, okay. ha 10. Entra. Roll di 6 più 3. Io posso usare Gaia Forus e incantato un Meclo nello stesso turno? Sì. Ok. Allora adesso uso con la mia azione bonus Gaia Forus. Recupero okay. io 6 HP e Devin recupera 10, mi pare. Cos'è? Essere a 4? Sì, sì, sì. Dialettica. Okay. Okay. Devin recupera 10 HP. Devin è full. Con l'azione... faccio il mio calcio. Anzi no, me lo tengo un attimo. Sa mai. E hai notato che il golem è in... Non gli hai fatto nulla. Sì, sì, sì. No, non era intento fare danno. Okay. Se lancio incantato un micro da qua, raggiungo la... la Mucalos. Sì. Ok, lancio incantato un micro, allora. La forza è notevolmente ridotta rispetto a prima. In mezzo c'è anche Meskenos. Ho una domanda. Dimmi. Posso usare come reazione Meskenos Solitude e usare immediatamente un'azione e spostarmi immediatamente? C'è scritto, sì, se puoi. Lo fai puoi spostarti tu. Ok, voglio mettermi in diretta linea d'aria contro la Mucleus, quindi farle letteralmente da scudo. Posso? Credo ti penetrerebbe. E quindi la colpirebbe lo stesso? Sì. Sì, perché prende proprio tutto. Allora non ha senso. Puoi farlo per evitarlo. Yeah. Però non puoi castare Solitude, perché non devi avere bersagli vicini. E come puoi vedere dalla mappa, c'è un gigantesco colosso alla tua destra. Quindi c'è un altro problema. Sì, itti tutti e tre, mi rolli 3 di 8. Sul tizio non lo rollo nemmeno per evitare, sulla Mucalos se vuoi lo faccio, ma... La Mucalos lo prende nei denti. 17 danni. Adore. Quelli sono per la Mucalos, mi rolli quelli per Adore, cioè per Meskenos. Sì. Sette. Non mi aspettavo che sarebbe successo. Della vita della della Mucalos scendono a meno 3. Non è morta, è sconfitta. Ok. Quindi cada a terra. Io sono istato, giusto? Sei? Sono istato, giusto? Sì, il golem, non avendo più il suo la sua fonte di azioni, rimane immobile. Ha con i pugni a mezz'aria. Ok. Io sono estato, quindi dovrei avere 10 di movimento. Sì. Quindi abbastanza per avvicinarmi qua e tirargli un calcio nel collo. Ti permetto di ucciderla, senza rollare. Sì, senza... Cioè, io corro proprio, la vedo a terra. Vai, posso usare... ah no, perché c'ho sempre... Sei sempre lo stronzo lì a fianco. C'ho sempre la cosa... che non posso. Non ho azioni per impedirti sta cosa. Vedi, prego. Il time e il counter è sceso a 5. Se ti interessa, ma è comunque 5 di troppo. E vedi questa cosa succederti davanti agli occhi di Nibel che sbuca dal muro di Ife. e rushes through il muro che c'è davanti e tutto. Salta sul corpo della Mukelos svenuta per l'impatto coi funghi. Se vuoi descrivere come lo fai. Sì. Io guardo la Mukelos a terra, il suo collo scoperto in questo momento. La guardo in faccia. Mi passano in mente un sacco di anni di sofferenze. Il dover star dietro alla malattia di tutta la mia famiglia. Quello che ha provato lui fisicamente sul corpo. E nel vederla non può fare a meno di pensare che anche se la uccidesse, la sua famiglia non ritornerebbe in vita. Però allo stesso tempo non può fare a meno di pensare che questa vendetta non la sta facendo per loro, la sta facendo per lui. La sta facendo per se stesso. Quindi tira il calcio e le spezza il collo. Uno spettro compare dietro di te. L'area al Colosseo inizia a cramblare. E dietro di te compare lo spettro di Maiklon, che non è soddisfatta e vuole di più. E quindi prende il suo corpo senza vita. Le ife la sollevano in aria. E c'è una scritta, quindi la leggo perché secondo me è più inquietante. Oh, durissima. Datemi un attimo. Vuoi cambiare musica e mettere qualcosa di più drammatico? Certo. Grazie. Oh boy. Dammi un attimo che devo cercare la parte. Cristo, non trovo dove l'ho scritta. Vabbè, me la ricordo. Non sarà altrettanto figo che leggerlo. Cercala un attimo, abbiamo un attimo. Sì, sì, infatti, datti il tempo. Avrei scritto una frase, cerca su Google Doc sì, e... Sì, sì. La trovi. Esatto. Non preoccuparti. Per cominciare, ho trovato la musica. E torna sempre dove sei stati bene. Le ife come mani non dissimili dall'Enkatatom Maiklon afferrano le varie parti del corpo della Mukelos e le strappano prima una mano, poi un braccio, una caviglia, una gamba e poi iniziano a prendere gli organi interni e strapparli e buttarli in terra. Le strappano la mascella, le strappano un occhio, le strappano pezzi di tutto il suo corpo. E come per prenderla in giro, Maiklon le dice pure: è stata una ragazza di umili natali a rubare il tuo cielo alla fine. Il tuo destino era già scritto. E la Mukelos, che è in qualche modo, non dico viva, ma esistente, proprio come Adone, guarda il cielo che si sta liberando dalle braccia, e fa una preghiera alla divinità del fato. E viene avvolta dalla luce il suo cadavere, perché non è più viva, ok? La Mukelos è morta, come qualcun altro in questa stanza. Emana luce, la luce irradia il gigantesco golem che viene polverizzato, la luce acceca tutti quelli di voi che hanno gli occhi, e l'ultimo di voi vede questa cosa in un modo completamente diverso. L'ultimo di voi vede un'anima che smette di essere un'anima e diventa qualcos'altro. Quando riaprite gli occhi, vedete che le parti mancanti del suo corpo sono state rimpiazzate da cristalli di un materiale luminoso, lucido, e ho la descrizione di questa cosa. Oh, mamma mia. La Mukelos è per meno del 20% fatta di carne, i capelli, un pezzetto della faccia è rimasta di pelle, una parte del petto e dei fianchi, non c'è più sangue dentro di lei, ma ha gigantesche ali di metallo al posto delle piume, con anelli di metallo al posto delle piume, e il suo intero corpo è tenuto insieme da catene. Ora parla con una voce uncanny, senza muovere la bocca, che comunque è una statua, è un pezzo di cristallo unico, e dice: io sono Santa Hallusia e voi morirete tutti, perché questo è l'ordine del cosmo. Noti che parla, o comunque ha un vibe, Meskenos, identico alla creatura gialla. Hai un leggerissimo dubbio, proprio leggero, che per la quarta cazzo di volta ti abbiano usato. E quindi entriamo nella fase 2, in cui non c'è più il golem, ci siete voi due lì, e c'è questa strana creatura angelica fatta di cristalli e catene. Non avendo un token adatto, metto questo. E questa cosa in realtà dura qualche, cioè diversi secondi, quindi faccio due turni di là dopo questa scena, per avere il tempo, come dire, scandito allo stesso modo. C'è il mio turno che manca. Esattamente. Ok. Prego. No, scusa, tocca a me. Ah, sì. Ok. Perfetto. Allora, io ho un movimento aggiuntivo, giusto? Sì, c'hai tipo più 6. C'ho più 6 di movimento. Perfetto. Vabbè, no, sai cosa? Rimango della mia idea. Meskenos si sposta qua. E Nibel, tu se vedi, se lo guardi, vedi che il cuore al centro del suo petto prima ardeva. Adesso arde in una maniera quasi incontrollabile, sembra che il metallo attorno si stia scaldando al punto che potrebbe fondersi, ma non si fonde. E Meskenos dice: sono deluso dalle tue scelte, sono deluso forse di essere stato preso in giro ulteriormente, ma poco importa, la fine arriverà per tutti. Icore della fine. E casto Icore della fine su il nuovo santo e Nibel. Sai che il nuovo santo si chiama Santa Hallusia, l'ha detto, credo. Perfetto. Sì, sì, l'ho sentito. Sì, sì, l'ha detto. Tu lo sapevi già. E questo è il mio punto. Sì, sì, lo so. Quale dado usi? Dado da 10. Perfetto. Ho un tiro salvezza? No. No, ciascuno resiste con difficoltà 18. 18. Sì, scusami, dicevo. Puoi fare il tanto il roll su Nibel. Evitare o resistere? Resistere. Miss 12, niente, ho fatto poco. Devi resistere tu, Nibel. 12. Ah, uguale. Puoi fare direttamente 2 di 10 per me, 2 di 10 per lui. Gli faccio staccati i primi 10 per Nibel, quelli dopo per la nuova santa. Ouch. Li vuoi fare al contrario? Posso? Ah no, ho preso, l'ho già tolti. Sembra che tu non abbia capito con chi hai a che fare. Ok, questa era una. Tra l'altro, scusami. Il terzo bersaglio lo posso reindirizzare su un'altra, su uno dei due o... Ottima domanda. Se puoi attaccare lei due volte te lo faccio fare, se vuoi fare Nibel no, povero Nibel, basta, lascialo stare. No, ma è ancora vivo Nibel? Sì. Non ti preoccupare. Ammazzo dopo Nibel. Col mio cuore, credo. Sì, due volte sulla santa, ovviamente, fucker. Povero Nibel. Troia bastarda. Ti devo veramente uccidere. C'è ancora un sacco di punti vita. Ok. Devi gli ha recuperato un miliardo, vai altri due di 10. Ah, ok. 9. Ok. Io ho una protezione regalata direttamente da Dio. Asciugami la fava. E fai un di 6 danni puri a Anibel, cioè sono da fuoco però sono puliti. Sì. Oh. Ok. Ho una domanda, ho un intervento? In realtà no, niente di... cioè ti sei mosso senza prendere interventi. Ehi. Ho fatto un'azione extra, ho fatto un'azione passiva. Hai fatto due azioni base e un'azione extra, perché hai sparato il raggio, ti sei mosso. Ok, non posso abbassare il countdown, giusto? Sì, puoi. Bello, abbasso. Arriviamo a 4. E non credo poter fare nient'altro. Perfetto. No, andiamo di là. Vi faccio fare due turni. Però hanno la stessa struttura, quindi parte o Lieto o Mif. Possiamo far partire Gint? Per me sì. Allora parte Eidos proprio. Sì. Eidos gli tira un altro pugno a questo idiota. Aspetta, no, ci sono delle direttive diverse. Allora, Eidos è così. Sì, aspetta, una domanda. La vita della barra è aggiornata di tutto, anche di quello che hai recuperato prima? La barra verde è l'evasione, la barra blu è il mana, la barra rossa è la vita. Sì, è tutto aggiornato. Ok, è tutto aggiornato. Sì, no. Glielo dà il pugno. No, nel senso, quello che volevamo fare va bene. Eidos in realtà non era nei conti, quindi può fare un po' il cazzo che gli pare. Infatti no, gli può dare questo pugno Eidos. Basta che importante. Non sia un spell Eidos, il resto diverti. Esatto. Non devo usare spell? Non devi usare spell, tutto il resto puoi divertirti. Peccato, avrei proprio voluto usare una spell. Gli tiro un di 6 danni da oscurità. 4 danni. Fa 2 passi indietro. I minion lo chiudono e attaccano. Minion! 20. I minion aspetta, i minion devono togliergli i vestiti. Attaccano i vestiti? Sì. Perfetto. Aspetta, facciamo... No, aspetta. Due minion attaccano i vestiti, due minion attaccano il libro. Sì. Ho 5 hit sui vestiti, sono 5 danni. I vestiti vengono graffiati, ma non abbastanza da strapparsi, quel primo. Un attimo, che devo aggiornare la scheda. Cazzo, è laga. Laga. Sì, entrano tutti sui vestiti, quindi gli fa 5 danni. I vestiti sono ancora integri. Il secondo attacca il libro? Sì. Missa una volta, ma lo hita 4 volte. Il libro non tanca 4 danni, il libro viene distrutto, viene fatto a pezzi. Perfetto. Gli altri due? E vestiti. Ancora. Vestiti okay. Devono andare via. Tutti sui vestiti. Sì, entrano tutti no. 10, quindi hanno quasi strappato i vestiti. E... vuoi andare tu? Do io uguale. Gli faccio destroy sui vestiti? Ok. Gli faccio destroy sui vestiti. A che distanza sei? Forse un po' troppo lontano, dammi un attimo. Sei a distanza 5. 4.5 è 4.5 e 5. Mi avvicino di uno. Dovrebbe sei a distanza 4? Dovrebbe. Ok. E... basta sì, che spendi il mana, non faccio nessun roll. Infatti no, no, spendo fatica. Comunque sì. Tirami danni. Quanti erano? 4 di 6, giusto? Sì, se fai tutti uno non si spaccano. Ok. Peccato che l'hai fatti sui vestiti, hai distrutto i vestiti. Perfetto. Chissà che bruci come un fuoco, porca troia. Mi sono mossa, ho fatto la cosa, ah, non posso attaccarlo un'altra volta. Ok, no. Agli altri fa, pensate a calmarlo. Si deve calmare. Calieto? Calieto, sei l'ultimo di me, Calieto. E Lieto per calmarlo non c'è niente, cioè, Lieto schipperebbe il turno. Quindi è nudo? Sì, è nudo, Stella. Sì, però è coperto di fiamme, credo. Fiamme, fiamme. Da come l'avevi descritto, non più. Sì. Perché non è più. Calmo. È calmo? Sì. È a 4? Eh sì. Quindi, eh sì, no? Più che altro la cosa importante che avete strappato non sono tanto il resto dei vestiti, ma il visore. Che vedete che no, i suoi no, occhi... No, lo vogliamo nudo. Sì, sì, però il resto non è così rilevante ai fini della trama. È rilevante ai fini di alcuni di voi. Però vedete che ha gli occhi bruciati. Ok. Blade Rain. Non ho segnato Destroy. Allora, 6. Blade Rain. Blade Rain. 8. Sai che cosa? Allora. No, ok, quello che te le crei intorno. Me le crei intorno e poi riesci a rilanciarle. Ok, cose. Ne creo 4. Perché ho 4 di special. Togli il mana, la fatica. Sì, lo casto con. Posso finire il mana e togliermi uno di fatica? Sì. No, ah ok. Poi ma non prendo il bonus di averlo pagato col mana. Ok. Per quello allora, non faccio io. Sì, sì, sì, non frega un cazzo perché... Sono 14, sì. Blade, yes. Ontica al 2, yes. Quindi sono... un di 8 danni per lancia. Se usi le lance. Sì, sì, sì, uso le lance. Sono a 22 di ontica. Ok. Ok. E gli tiro una lancia. Tira per colpire. In realtà, di nuovo, è per la mia soddisfazione personale, perché non puoi missare. Ah, devo, no, se devo tirare per colpire o devo... Sì, sì, per colpire. Sì, sì, sì, ok, ma... Perché c'aveva anche la roba da evitare, la lancia, tipo, beh. Ah, sì, puoi farlo non come attacco, ma come evitare, se preferisci, sì, sì, sì. A parte che è indifferente. Sì, tanto colpisce, non mi fa cazzo. Infatti. Puoi missare. Ah, non... È un 6. Sì, sì, è aritmeticamente impossibile che missi. Cioè, se tiro io poi puoi missare, se faccio 10... E poi un numero alto. Ok. E tiro i danni, che è un D8. Sì. Ne tiro una alla volta, sì. Perché è una per azione... Se ne tiri due danni. Due dadi. No, però per tirarli non devo sprecare un'azione. Spendi un'azione extra per lanciarne una. Sì, sì, sì. Puoi usare un'azione base per pagare l'azione extra. Ah, quindi posso tirargli due. Posso lanciare due. Sì, allora gli tiro due D8. Vai. No, 11 danni. Sul primo. Ti avete distrutto il libro? Sì, e anche i vestiti, cioè un libro e... Io ve lo dico, non è divertente da parte vostra. Una cosa dovevamo fare. Ve l'ho detto, era un puzzle questo combat e l'avete decriptato. Infatti, ora faccio un paio di turni e se non fa delle robe strane, ve lo auto-winno dopo 40 turni. Tocca a lui. Non gli hai segnato i miei danni, ehi, ehi. Sì, ora gli disegno 11 di vita. Esatto. Danni. Come okay, prima azione rigenera il libro nella sua mano. Come seconda azione casta Frenzy. La vuoi cancellare? Aspetta, Frenzy gli aumentava la barra della cattiveria, tipo. Non l'ha mai fatto. non l'ha mai fatto, perché se lo fa, esatto, se lo fa e brucia non è più ignifugo, probabilmente. Quindi è tipo, deve essere uno strataggio, non lo so. Però non è Dispel Magic, giusto. L'unica cosa che avete visto è che mentre va a fuoco si rigenera. E va, dispellaglielo. Sì, dai. Dai, sì. Quanti ce n'hai ancora? Ce n'ho uno. E cioè, questo è l'ultimo o ce n'hai ancora uno? Questo è l'ultimo. Ok, non è detto che sia finito sto combat. Infatti. Rollo. Ho fatto 8. Sì, va benissimo. Perché mi contavo anche quello da Promezia. È giusto, vero? Sì, è lo stesso giorno. Sì, perfetto. Allora sì. Tira una testata all'imp davanti a sé e lo pianta nel terreno. L'imp smette di muoversi. Poi si gira e tira un pugno. La maniera politica di correct dire che è morto un imp. Si gira e tira un pugno a uno degli altri, a quello in alto. E gli fa min damage. Ok, no, devo... No, sei città. Faccio prima perché non può missare neanche lui. Perde 2 stack di rage facendo così. Tocca a voi, perché come vi dicevo, vi faccio fare 2 turni. Quindi potete far agire prima Eidos, se volete. Sì, Eidos crea altri minion. Un altro minion. Che gli sia tipo vicino, cioè nel senso al posto di quello che è appena caduto. Esatto, l'ho piantato per terra ed è la stessa tattica di prima. Ok, attaccano il libro tutti, esatto, sì, tutti sul libro. E no, vabbè, aspetta esatto, cioè esatto. Abbastanza il primo che rompe il libro, quindi dopo glielo spacca già il primo. Perfetto. Oh, sì. Ottimo, gli altri attaccano il corpo. Certo che questi libri li fanno di merda, però, Vabbè, ci di lieto che... Fa 3-4 di vita il libro. Quanto deve averci un libro? Un pochino di più, sai, così importante. Entrano 9 e la sua evasione scende a 2. E ho finito i turni di Eidos, tocca a voi. A me, tocca a te, quello che vuoi. Gli devi fare tanto male. Più di 2 di 8 Gnefo. Ok. No, non è vero, faccio un pochino di più con le lance a questo punto, perché ho appena preso un punto maestria alle lance con questa stronzata. Ok, io penso che andrò di Pride perché mi tengo qualcosa per... Anzi... Tecnicamente non è più avvolto dalle fiamme, quindi non dovrebbe fagocitare i Varus. Non ha la reazione. Subito se avessi Ontica al 6, non Ontica al 6, in teologia al 6, scusami, non posso scoprirlo subito. No, non voglio. C'è un solo modo per scoprirlo. Il problema è che se cazzo Terrify. Bene, anche tutti noi. No, scelgo te e Eidos da proteggere, però gli imp potrebbero essere. Ok. Ma gli imp stanno facendo un ottimo. Sì. Domanda, Master. Io ho una carica da vuoto. Quanto range è la carica da vuoto? Dipende che spell la usa. E emotional power. Andiamo a vedere. Allora, Sicelle. Da te. Da me. A tutti i nemici, quindi solo lui praticamente. Sì, solo lui. Se sta entro Sicelle. Sì, sta entro Sicelle. Ok, allora facciamo così. Faccio emotional power. Non ho modo di evitarlo, tira un di 6 danni. Ok. Danni sacri? Sì, sono danni okay. Sacri. Vai. Perché non mi va il dato? Ho fatto un po' di max damage. Sì. E li risubisce alla fine del suo turno. Esatto, perché io ho un'altra carica di vuoto. Sì. E poi gli metto Pride. Sì, ci provo di nuovo. Attacca. Quanto hai di mente? 4. Entra, tira i danni. Perfetto, non mi ricordo quanti sono, dammi un attimo. Credo 2 di 4. 2 di 4, sempre sacri. Fire. Sì, sì, sì. Altri 6 danni. Perfetto. Ok, spendo una carica. Allora, tocca a Lieto, e poi tocca a lui, e poi andiamo dall'altra metà. Sì, io c'ho una domanda. Azione base, gli sparo con la pistola. Sì. Azione extra usata come magia, gli lancio una lancia. Va bene? Sì, sì, sì. Sì. Ok, la quindi solo 3 di 8. Non è un cazzo, cioè è una roba solo extra. Ok, speciale. Ok, ok, è solo... Sì, sì, sì. Sì. Puoi tirarmi direttamente i danni, se vuoi. Sono al punto sì, in cui... Sì, sì, sì. Sono 3 di 8 più 1. Il secondo dico... Dico cazzo, non c'ho il libro, è vero? Non c'hai il libro. Non c'ho il libro. Okay, mi piaceva, tu non ce l'hai. Prendo 11 danni. Fine del tuo turno. E ricarico la pistola. Tria. No, no, c'ho ancora 3... due cose. Non mi sono trattato. No. Non puoi fargli un altro Thundercall. Ho fatto già 3 azioni qua. Ho fatto un'azione base e un'azione... No, ho fatto 2 azioni. Ho fatto un'azione base e un'azione extra. E poi l'azione lanciato... base è sparargli con la pistola. E sì. L'azione extra è lanciargli una lancia. E l'altro dado che hai tirato? E la pistola fa 2 di 8. Ah, ok. Quindi allora ho tirato 2 sì. Allora di 8 più 1 di 8. Posso castargli Thunder con l'intriga, perché è un'azione... Sì, colpisce anche lì, è l'unica cosa. Sì. Lo faccio? Alto. Vai. Lo metti proprio su di lui o... Lo metto su di lui. Se lo metti su di lui colpisci tutti gli imp. E tu agirai per ultimo, il prossimo turno. Agisci per ultimo. Agisco per ultimo, se non lo metto su di lui c'ha la difficoltà aumentata, ormai colpirlo è gratis, quindi non può scappare. Esatto. Quella la roba. Sì, allora metterò in un corner dei cose in modo da schivare 2 degli imp. Quello in alto è quello che sta attaccando, se spacca... Quello metti in basso a destra, metterlo, se mai. Perché... Sembra il più safe in assoluto. Lui sta attaccando questo imp qua. Ah, e allora okay. Lo centri su quell'imp. Scusa? Sei sicuro di fare Max Damage lì? E centrato è peggio, perché centrato hitta anche gli altri 2 imp. Anche gli altri 2 imp, per quello che l'avevo messo. Allora sì, va bene. Ok, faccio il suo turno, poi andiamo dagli altri. Vai. Quanta rabbia ho? 2. Come prima azione devo rigenerare il libro. Come seconda azione casto Berserk. Nessuno mi ferma. E guadagno 2 di rage. È a metà di vita? Sembrerebbe, sì. È un'azione... Non è un'azione questa roba qua. Già. Cioè la fa e basta. E mi tolgo solamente la fatica. Quindi ho un'altra azione, con la quale casto Frenzy, nessuno mi ferma. E... attacca 4 volte. Il primo su quello di sopra. Sì, vabbè, gli attacchi entrano in realtà. Devo rollare i danni. 5. Secondo. Ah no, scusate, sono più 2 ulteriori, quindi questo qua è già morto. Poi fa 2 altri attacchi così, 2 di 4 più 4 per 2 8, 8 più 4 12, 16, uccide anche questo imp. Fine del suo turno, ha perso 4 di rage e quindi va a 0. Berserk finisce, Frenzy gli rimane attivo per il prossimo turno e le fiamme si spengono completamente. Tocca agli altri. Devin, dalle retrovie, si è messo una mano sull'orecchio e sta urlando: Nibel, scappa, stanno arrivando! C'è ancora il muro di... I radici? Allora, c'hai questo muro qui e poi c'hai i muri laterali. E conviene allontanarti da Adone. Allora io metto le mani in tasca, tiro fuori la mia pipa, la metto in bocca, metto la mano nell'altra tasca, prendo i fiammiferi, apro la scatola, vedo che non ce ne sono più, la butto a terra. Guardo Adone, guardo la santa e dico: Meiklon, fai uscire il ragazzo, che abbiamo finito. Lo spettro di Meiklon compare e dice: e con questo abbandono la terra. Una colonna di Ife porta in alto Devin e il Colosseo viene sepolto. Siete rimasti voi tre all'interno del Colosseo, che è completamente blocked off, e Nibel non ha più intenzione di combattere. Quindi vorrei sapere cosa fa Meskenos prima di dirti cosa fa Santa Lucia. Meskenos si avvicina a Nibel. Vedi che avvicina il dito verso di te e compare una piccola fiammella per accenderti la pipa. E accendo la pipa e faccio un lungo, profondo respiro. E sbuffo. Meskenos ti dice: preferisci una morte in dolore da parte mia, o preferisci vedere ciò che succederà adesso? No, fammi aspettare. Come preferisci. Tocca a me, Meskenos? Sì, l'altra ti risponde. E certo. Finora è una creatura di cristallo e catene, quindi sembrava perfetta sopra ogni cosa. E vedi che dà completamente di matto e dice: pensate di potermi ignorare? Io sono la dea dell'ordine. Io costruirò un nuovo mondo sulle ceneri di questo. Voi non siete che mosche sulla merda che ostacola il mio cammino. Tu non sei nulla. Non lo sei mai stato e mai lo sarai. Te l'ho detto. Forse non sarò io a portare la tua fine, ma la tua fine arriverà molto presto. Lei comanda le sue catene che ti avvolgono e ti tirano a lei. Posso evitare questa cosa? Posso reagire in qualsiasi modo? Va bene. No, però ti ha cerco pullato. Di... Cioè non ti ha fatto un cazzo. Ah, mi ha solo pullato lei? Sì. E ti sta proprio prendendo così e ti dice: io e te potremmo fare grandi cose, e invece che scegli di schierarti con queste scimmie? Io le prendo la testa fra le mani e... il cuore vedi che inizia a bruciare, ma mescono sempre con la sua non emozione, dice: io desidero solo una morte in dolore per queste creature. L'esistenza è sofferenza abbastanza, che almeno la fine sia dolce, come la tua. E a questo punto, se posso fare azioni, voglio... voglio di nuovo usare Icore della fine su di lei. Allora, non ti faccio rollare niente, descrivi solo quello che succede. Praticamente il cuore di Meskenos irradia un fuoco disumano, non umanamente possibile. E attorno a lei, praticamente su di lei, dal nulla cade un fulmine nero che entra in tutte le sue ossa, tutta la sua carne, e il cuore inizia a battere sempre di più e le fiamme iniziano ad avvolgerla. Lei è ferita, ma ancora viva, e si carica le mani di veleno e inizia a cercare di strozzarti, infilando il veleno nel tuo corpo, che però non sente niente. E continuate per un po' a colpirvi, lanciandovi da un lato e dall'altro della caverna, mentre Nibel se la fuma. Finché... Allora, mi spiace che avete che hai liberato Devin, perché Devin aveva una frase epica che dico e non è canon, che è: tu va la bagascia, Shibira, dove cazzo sono? Però non c'è qui, quindi non la dirà mai sta frase. Un minuto è passato. Un faro di luce verde penetra la cupola e irradia al centro. Quando si dissipa, al suo interno compaiono due persone. Un vecchio dalla barba lunga, che si sostiene con un bastone e indossa una mantella verde sopra una toga bianca, insieme a una ragazza con grandi ali piumate e vestiti imperiali. La ragazza è confusa, si aspettava di dover combattere Adone Kaltenfeuer, forse Santo Meschenos, e vede che la situazione è diversa. E quindi ha le armi, ha le spade che le girano intorno, è pronta a combattere, e il vecchio le abbassa le mani e le dice: Santa Volker, vi prego, occupatevi dell'altra persona. Io ho un debito da saldare con lui. Azmo, hai capito benissimo che è Azmo, si avvicina verso Meschenos, distrae entrambi gli altri due. Ci sono tre santi in questa scena. Distrae gli entrambi gli santi. Per me nella tua cucina, questo è del giorno, posso vederli? Non sono riuscito a salvarti. Questo è il mio più grande rimpianto. Ho deluso il mio allievo Silas. Ho causato tanto male a tante persone che non se lo meritavano. Cosa vuoi fare? Il tetto è aperto. C'è un buco, non è aperto. C'è un buco da cui io potrei passare. No, è tipo, fatti conto che è passato un laser. Loro si sono teletrasportati con quella cosa lì, ma è più piccolo di una persona. Cioè, dovresti comunque sforzarti di aprirlo. Ok. Scavare. Meschenos guarda comunque il buco, poi riguarda il vecchio e dice: cioè, puoi provarci a scappare, eh. Dice, lasciami andare. Ignorerò voi. Il vecchio si toglie la cosa verde, la butta per terra, si toglie la toga, prende dalla toga una pallina blu, butta la toga per terra. Che cosa vorresti fare, Adone? Il mortale di nome Adone non è più, non esiste più. Ho liberato la sua anima. Esiste solo Meschenos e i ricordi di quel mortale. Desidero la fine dell'esistenza umana, non per desiderio di... non per godere della sofferenza. Trovo solo che l'esistenza sia una sofferenza che io voglio togliere a tutti voi. Ho visto attraverso i ricordi di quel mortale quanto sia facile essere manipolati, soffrire. Per cosa? Gioia effimera che può essere distrutta in un secondo. Non credo questa sia vita. Siete già morti in un certo senso. Il vecchio spacca la sfera blu e dice: a costo di morire, Adone, ti porterò da Silas. Eleuteria Tempestaia, dio della libertà, lascia al tuo ultimo fedele la possibilità di liberare dal male almeno un tuo protetto. Prenditi ciò che resta del corpo di questo vecchio, la mia vita, i miei organi, i miei sensi, ma lasciami fare la cosa giusta. Il suo corpo diventa improvvisamente muscoloso, gonfio, tanto che i suoi vestiti rimasti riescono a malapena contenerlo. Persino il suo volto sembra deformarsi e ringiovanire. Si muove nell'aria fulminamente, separandoti dall'altra santa, sbriciolando le catene come se fossero fatte di burro. Ti tiene in alto con una mano, mentre scaccia l'altra via verso Maria, che la infilza al volo. E non riesce a capire se stia volando o solo saltando molto velocemente, ma in un battito di ciglia si trova dietro di te e poi con una gomitata precisissima ti lancia verso l'alto, spaccando il tetto della grotta. Continua a schizzare rapidamente in aria e con una manata ti scaccia la corona di Grauti dalla testa o da qualunque punto la stessi tenendo. Sì, sì. Con un altro colpo rapido e preciso strappa il tuo cuore in fiamme e lo lascia lì. Con un ultimo colpo fa cadere il rosario di Ghege, la cosa che ti dava le protezioni prima. Non hai bisogno di respirare, ma questa cosa ti ha comunque tolto il respiro, cioè stai facendo fatica per reagire. E lui ti stringe con due mani, inspira e dà una testata sulla tua fronte con tutta la forza che ha, spaccando la maschera metallica che costituisce il tuo volto falso, rivelando sotto quello di Adone. Asmo spicca al volo, facendo tremare il terreno e tutto ciò che c'era nell'area. Nibel vedi questa scena, Devin da fuori vede questa scena. La chiudiamo ormai, l'ho iniziata, la chiudo. Sì, sì, sì. In cielo, Asmo si muove per i cieli come un proiettile sparato in aria, trafigge le nuvole ed evita elegantemente tutti gli animali volanti mentre si dirige verso nord, lontano dalla colossale creatura del Mar Senico. Tra le sue braccia giace Santo Meskenos, completamente sconfitto. Raggiunge Falchena, dall'alto riconosce i suoi fiumi, la sua centrale, la sua stazione, la caserma. Atterra causando non poco disordine e passa il corpo del santo direttamente alla giovanissima Magister Fici. So che non ci si può fidare di te, Teodora, ma ho ancora la forza per ucciderti. Shivira dovrebbe averti detto quali sono le mie richieste. Eseguile, e non sentirai mai più parlare né di me né dei santi. La Magister si limita ad annuire. Il corpo di Santo Meskenos viene trasportato da lei personalmente, da un paio di membri d'elite dell'impero, dentro la centrale. Le porte del nucleo, normalmente chiuse a tutti, vengono aperte. E al suo interno si può vedere Silas, tutt'altro che intorpidito dal sigillo, che riesce ancora a parlare, a muoversi, a divincolarsi e persino a urlare quando vede quello che ne è di Adone. I cavi si strappano, gli occhi di Silas, pregni di lacrime, si chiudono solo quando riesce a stringerlo fra le sue braccia. Silas che ora ha le ali. Uno schiocco di dita, il nucleo si chiude, i due si sono riuniti, questa volta per sempre. Asmo Flower, fuori dalla porta, fatica a respirare. Si appoggia alla Magister, i suoi muscoli si sgonfiano, il suo corpo torna ad essere quello di un vecchio emaciato, il suo sguardo si fa vuoto. Sorride. Per l'ultima volta sorride. Ci vediamo alla corte di Doughty, ragazzi. Non fatemi aspettare troppo. E cade a terra. Cambio di scena. Io direi che lasciamo lì ancora un attimo Nibel e andiamo dall'altro lato. Anzi no, dai, vi chiudo la sessione da questo lato perché è finita e poi prendiamo voi. Maria sta affrontando quello che resta della Mukelos nel corpo di Santa Alusia, che realizza subito che questa è una ragazza di umili natali, che è indebolita e che è una santa molto più forte e molto più allenata di lei, e pulla ogni trucco nelle sue maniche, cerca in ogni modo di vincere con dei mezzucci, ma Maria riesce ad avere la meglio, a piantarla per terra con una miriade di lame e si assicura persino di non ucciderla, a differenza di quanto avete fatto voi. Anzi, dalla sua bag, dai suoi vestiti, tira fuori una pergamena e sigilla Santa Alusia sul posto, completando, in un certo senso, quella che era la missione di Nibel. Maria si gira, quindi, verso di te, smette di volare, inizia a camminare nella tua direzione e ti porge la mano. La guardo e cerco di darle la mano, ma il mio braccio adesso non si alza e quindi porgo il braccio sinistro. Lei abbassa il braccio e ti stringe la mano col sinistro. Abbiamo avuto delle divergenze, ma sembra che almeno per ora combattiamo per la stessa fazione. Così sembra. Onestamente non ho mai avuto niente contro di te, eri solo insieme alle persone sbagliate. Può darsi, però con quelle persone sbagliate ho raggiunto il mio obiettivo. Ne so qualcosa. Avverto che vuoi che finisca tutto. Non penso mi manchi tanto aspettando. Devi in sopra può curarti. Io posso portarti in salvo. Non hai motivo di morire in un buco. Non ho motivo neanche di rimanere in vita. Troverai una ragione. Guarda cosa mi ha fatto Adone. Eppure non mi sono lasciata andare. Per cosa dovrei vivere? Mia figlia non c'è più. Mia moglie non c'è più. Potresti aiutarci a creare il mondo che avrebbero dovuto vivere. Quale sarebbe? Un mondo dove la gente non viene uccisa per la brama di potere di qualche persona che crede di essere un dio. Intendi far fuori tutti gli dei che ci sono in giro? Intendo mettere il mondo in sicurezza. Se è necessario sigillare gli dei, quello. Se è necessario sconfiggere i mostri, quello. Se serve fare altro, il resto. Non ho mai conosciuto un uomo testardo come te. È un prospetto molto interessante, ma non sono un eroe. Sono solo un padre. Lei annuisce e guarda per terra. Ho sentito che le persone danneggiate trovano la loro casa ad est. Potresti ricominciare lì se questo mondo non ha più nulla da offrirti. Sarebbe sempre meglio che morire in un buco. Per favore, vieni su con me. Se il mio corpo reggerà, perché no? Voglio prendere questa scommessa. Ti abbraccia e esce dal buco che ha creato poco prima Azmo. Ti poggia decisamente a terra, fa un cenno a Devin, che da bravo soldatino arriva e usa tutta la energia magica che gli è rimasta per guarirti, e perde i sensi. Devin, vedi, sei ripristinato completamente di punti vita. Maria avvicina la mano alla testa e dice: Shibira, tutto in ordine. Avrei bisogno che venissi a recuperare Devin. E puoi trasportare Nibel da qualche altra parte? Come, chi è Nibel? Nibel è quello che... Sì, quello che era con me. Sì. Saremo qua all'uscita di Esboson. Farò io la guardia. Sì, cerco di non andare nell'occhio con le ali. Fine della scena. Siete rimasti voi nel combat. E la tattica è la seguente: se vuoi che la chiudiamo in maniera veloce, visto che a zero sarebbe da shreddargli il libro, togliergli poi la vita abbastanza, io casterei un neuromanzi e farei il sigillo. Ok, vi dico solo che questa cosa che per voi è un piano veloce, ci impiegate 2 minuti a farla. Questa cazzo di creatura non vuole essere sconfitta. Cioè, la sua rabbia è tale che ogni tentativo fallisce. La prima volta che casti Oneiromancy si incazza così tanto che si sveglia. La seconda volta che casti Oneiromancy finalmente riesci a stordirlo abbastanza da sdraiarlo. E quando è a terra, stordito, addormentato, esatto, puoi fare quello che vuoi. Mi tira fuori il suo scroll e appunto come aveva fatto con Vati, era? Sì, Vati. E fa la stessa cosa, quindi tocca il sigillo e tipo lo porge verso Iona. Leggi la formula contenuta e Iona, che era addormentato e stordito, rimane appeso in questa posizione. E hai sigillato un altro dei cosi. Aidos si butta proprio a terra all'indietro, schiocca le dita e la protezione intorno a voi sparisce, ma le colonne di metallo rimangono lì. Le guarda e dice: ci vorrà un po'. Non è un problema. E mi fa un lungo sospiro e fa: Shibira, ho sigillato quello che mi avevi chiesto. Una giornata veramente proficua oggi. Senti, domani che fai? Dormo. Ottimo, dormi ad Esboson. Mi scaldico all'occhio. Hai un posto in particolare? Posso fare quello che voglio? Avete dormito in una bella locanda l'ultima volta. Torna lì. Ok. L'impero si occuperà delle spese. Wow. Se il vento toglie. È favorevole, no, potrebbe già arrivare Brooke domani. Scusami. Mi chiedo cosa potrebbe avere di utile da fare quell'uomo qui, però va bene. Okay, si gira perfetto. Esatto, si gira verso dietro e fa: noi qua abbiamo finito. L'ideale sarebbe, beh, aspettare e riposare. Sì, non ti interrompio. Penso qua. Che questo sarà un saluto da parte mia. E se il master me lo concede, dietro si casta tipo East e con tutte le sue abilità si scala i suoi spuntoni di merda e esce. Te lo farei fare? Se non che hai dei dolori muscolari ovunque. Cioè, puoi uscire da questa cosa qua e dopo 2 minuti il tuo corpo si ferma. Nel senso che non ti addormenti perché tu non hai bisogno di addormentarti, ma i tuoi muscoli dicono: io ho finito. Quindi decidi come fare. Sì, cioè, Lieto letteralmente si arrampica su uno dei pali che costruisce la cosa. Arriva tipo in cima, si gira, guarda verso Mif. Alla prossima? Speriamo di no. E scende. Ok, i piccoli imp cercano di creare un'apertura tra due pali che sono particolarmente separati, la graffiano, esatto. Aidos è esausto e all'interno dell'area siete rimasti tu ed Aidos, quindi. E Miss si gira verso Aidos e fa: grazie mille del tuo aiuto, sul serio. Fa un cenno. È stato molto utile. Forse è meglio che vai a prendere tua madre, che è rimasta sopra la chiesa. Potrei teletrasportarmi. Ti scoccia rimanere qua con loro? No, resto io, ok, resto io. Si alza, si mette a 4 zampe, in realtà non si alza in piedi, e dice: so che la prima reazione umana quando vedi... so che la prima reazione umana quando vedi un demone è non fidarti, ma apprezzo che per voi è stato diverso. Non nego che mi fa ancora un po' effetto vederti. La chirurgia plastica ha aiutato, ma in caso di emergenza mi tocca tornare così. È comprensibile. È la tua natura. È la mia vera forma. Mia madre, hai parlato con Shibira, mi pare di capire? Sì, appena adesso. Ero amico del suo predecessore. Il mio ruolo mi ha portato ad essere molto influente. Deduco che conosci sia la Corona Nera che l'Impero. Veramente poco entrambi. Non c'è filo che io non abbia tirato nella mia lunga vita. Non c'è persona che non abbia lavorato per Eidos, compreso il tuo amico che se ne sta andando. Magari cambierò nome, ma dopo di oggi sono sicuro che le cose non cambieranno. Chiamerò uno dei soldati dell'Impero e gli dirò di sigillare mamma. E poi la farò reincarnare nel corpo di una bambina che sta per morire. È un problema per te? Perché stai cercando la mia approvazione? Perché, se ho capito bene il tuo ruolo, stai per diventare il nuovo presidente delle centrali. Mi fa incrocia le braccia e fa... Considerando il macello che ha fatto svegliandosi, non so quanto sia saggio, però... Non si risveglierà mai più. O meglio, Xadak non si risveglierà mai più. E a te sta bene avere tua madre che è nel corpo non suo, di un'anima comunque rubata, bambina, aspettare che cresca. E poi le dirai questo, e le dirai le atrocità che hai fatto. Sei sicuro di volerlo fare? Sottovaluti quanto lei sia strana. Sarebbe molto fiera di me. Giusto. Ha chiesto di te. Ti ha fatto. Ma soprattutto, io sono un demone. È una cosa con cui sono venuto a patti. Vivrò più a lungo di qualunque essere umano. Ho già vissuto più a lungo di qualunque essere umano. E l'idea di vivere da solo un po' mi spaventa. Questo non ti giustifica dal incatenare persone a te per il tuo egoismo, però non sono io a giudicare, anche io sto facendo queste cose per il mio egoismo, quindi... Una tollerazione reciproca è più di quello che ho avuto con Brooke nel corso dei secoli, con Brooke e i suoi predecessori. Quindi, arrivederci, Mif. Arrivederci, Eidos. Scompare in una nuvola di fumo. Immagini che ricompaia dall'altro lato. Anzi, lieto lo vedi ricomparire alle tue spalle. Ti guarda. Se vuoi dire qualcosa, digliela, sennò... Insomma, un altro nuovo corpo, un'altra nuova giostra. Il ciclo deve continuare. Sai, io mi ricordo di te. Sì. Promezia ha lavorato molto spesso per me. In particolare, una volta siete andati a casa della Magister a rubare una cosa per me. Sì. Mi spiace che sia stato traumatico. E mi ricordo anche di tuo padre. Lui non l'ho conosciuto, sfortunatamente. Non da vivo. Vorrei dirti che era un bravo uomo, ma... Beh, meglio di tanti altri, ma... Un tossico, un criminale, un assassino. Sicuramente il tuo percorso sembra più luminoso. E... Lieto si avvicina a Eidos. Non è un fare minaccioso, è solo un avvicinarsi. E... Mi fermo da faccia a faccia, molto vicino. E... Dimmi, se la magia dovesse scomparire dal mondo in questo istante, tu cosa diventeresti? Diventerei unico. O forse la creatura più forte che esista nel mondo. Tranquillo, non ne abuserei. Allora, Eidos, io sono sicuro che noi ci rivedremo. Sai, col tuo progetto finirai inevitabilmente con l'uccidere mia madre. Se non riesci a rimanere in vita senza la magia, non è un essere umano. Morirà di vecchiaia, prima o poi. In bocca al lupo. Salutami, Beuk. Mi toccherà farmi una famiglia. E procede verso la chiesa, cambiando forma almeno nell'aspetto, cioè almeno visivamente. Ok, per me la possiamo chiudere qua, perché è successo tanto. Se volete fare ancora qualcosa, dire qualcosa, ditemelo. No. Io ho una domanda. Vai. Arriva qualcuno a prendere il corpo? Cioè, qual è la... cioè, Mith resta lì? Appena si riprende la situazione, cioè... hanno bucato il coso, arriverà l'impero a recuperare il corpo di Laga. Lo stesso succederà col corpo di Santa Lucia. Lo stesso in realtà è successo a Meskenos, qualche centinaio di migliaia di chilometri da qui. No, vabbè, non così tanto, però molto a nord da qui. E basta, mi sembra. Cos'altro avevi chiesto? No. Cioè, quindi mi fa per la cosa, per la locanda. Puoi andare direttamente alla locanda. No. Io non vedo Sirio. Neanche non io. Vedete. No. Se cliccate sopra ogni tanto riappare, poi si blocca e poi muore di nuovo. Adesso era un po' che... Anche io ogni tanto faccio. No, più che altro, effettivamente, Devin e Nibel, cioè, no, vada Devin e Nibel, arrancato. Ok, ci sta. Ragazzi, mi state blubollando. Vai, bisogna di parlare della... No, bisogna di parlare della campagna, quando che chiudiamo la sessione. Ok, 30 secondi. 30 secondi lo facciamo. Lieto, cosa vuoi fare, quindi vai verso... Allora, Lieto, quante sono le probabilità che veda quello che è successo da... dall'altro lato con, allora, con i tre santi. Il volo è successo prima che voi... E avevo visto la direzione in cui erano andati, ok. Sì. Il secondo volo, quello di Azmo, l'hai visto? Cioè hai sentito un aereo nel 1600 e sei tipo, gli aerei non esistono nel 1600. E basta. Cioè, queste sono gli eventi che venivano da là che puoi aver percepito. Tutte le altre cose non c'hai modo di averle sentite. C'ho due domande. Una è... una è tipo meta, in realtà. L'impero usa i portali per spostarsi? No. L'impero usa delle spell di teletrasporto che vanno da un punto in cui è stato settato a un altro punto dove è stato settato. Ok. Azmo, che è quello, il vecchio, è l'unico che fa quello che vuole. Che fa quello che vuole. Ed è appena morto. Sì. Nel mondo ci sono i portali devono essere costruiti e collegati tra di loro. Esattamente. Qua in città c'è un portale. Cioè il portale dell'impero nell'accampamento dell'impero. E ok, il portale da un posto dell'impero. E allora vado verso il porto. Ok. Basta. No, niente, io sono pronto per la prossima cosa. Se vi splittate, la campagna finisce, ovviamente. Cioè, credo sia finita. Capito, cioè, perché... sì. La campagna è terminata, sì. Io probabilmente l'unica cosa che direbbe Nibel è tipo a Maria di... Se riesce, salutami e mi felieto. Ok. E martedì, se volete, possiamo fare, come si dice, il post campagna. Sì. Bello. Infatti te lo volevo chiedere se potevamo fare l'epilogo finale. Ci sarebbe l'arco finale. Però l'arco finale ha senso... sì, avete finito tutto. Però l'arco finale ha senso solo se non vi splittate. Cioè, se andate in tre direzioni diverse, l'arco finale non ha senso. Ma mi sembra che abbiamo preso ognuno direzioni sì. Irriconciliabili. Non sarebbe molto naturale. Sì. No, rimetterti insieme a sto punto. Sì. No. Però possiamo iniziare una nuova campagna. Possiamo iniziare una nuova campagna e vi dico che rimangono due robe aperte. Che sono le centrali. Centrali. E il cazzo di serpente gigante a sud. Sì. Il sì. boss finale, come avrete intuito, aveva a che fare con quello. Però lui si è fatti i cazzi suoi, cioè sono passate una certa quantità di demoni, angeli, santi. E lui è tipo... Ci sono dei moscerini sul mio piatto. Sì. E in realtà, secondo me era carina farla la cosa finale, ma vediamo. Adesso ho bisogno di qualche giorno per metabolizzarlo. Sì, per gli altri va bene. Io sarei anche per, se la vuoi raccontare, se avevi tipo una direzione in cui volevi andare, se la vuoi raccontare tu e basta. Ok. Cioè, viene subita dai nostri personaggi, in un certo senso. So se ha senso come cosa, però vabbè. Sì, ha senso. Mi fa ancora una memoria. Mi fa ancora una memoria, cioè è incredibile. Allora, facciamo così. O ruoliamo tipo tre cristiani dell'impero con Mif. Cioè. Fatti un po'. Tanto che poi chi sarebbe? Magari rimangono nel mondo e diventeranno rilevanti poi. O questo, oppure la prossima sessione è il boss finale che compare contro Mif e Mif usa la memoria per one-shottarlo. Bella, e che vi bello. Racconto questa cosa qua. Binding of Isaac Type C. Ciao Alice! Saluta Alice! Ciao Alice! Master, posso farlo? Per me va bene, se va bene a tutti. Io posso anche aspettare. Io ho bisogno di parlare, ragazzi. Vai, quando vai. Basta, vai pure. Possiamo dire che è terminata la sessione.